Sono Marco, ciao Eugì, ben entrato. Beh, ancora stanno riposando, sai, perché qua sono anziani e non ce la fanno se no a modulare più tardi. Ma che anziano sei tu, sì. Millui. Natalie, lo senti Eugenio da Porto Torres, credo? No, negativo, c'è anche la televisione qua accesa e c'è un disturbo, già lo sai. Il solito disturbo, dai, a sapere qual è almeno. Ma e allora Eugenio, non sei a lavoro oggi, no? Eia, naturalmente sai cosa, adesso è presto, la gente riposa, anch'io un po'... mi stavo riposando, ma più che altro facendo roba. Poi più tardi, se ci sei, è che sia lavoro e non fa. E poi quando esci dal lavoro già stiamo già chiudendo noi, capito? È un po'. Non coincidono gli orari, mi. Franco, aspetta che mi ero spostato un attimo. Franco, sì. Eia, aspetta. Eia, ciao Fra, ben entrato, dai. Io mi sono avvicinato in questa stanza perché devo pulire una base magnetica, quella da 16 mm, beh, sì, millimetri, 16 cm della Sirio, tutta piena di polvere, tranne il PL, che c'era un'antenna. Devo pulire il cavo e la base, che fa schifo vederla. E me la devo usare... tra oggi e domani, vediamo. E ci devo mettere l'antenna Diamond VU. BMR. Ma una corda per me non ce l'hai, la base magnetica ce l'ho io, a me mi serve l'antenna. Corta però. Eia, aspetta, Natalino, lo senti Franco di Sorso? Perché avete parlato assieme. Avanti Fra. Eia, no, stavo dicendo a Marco. Che mi serve l'antenna UHF per il PMR abusivamente con 30 watt e antenna veicolare. No, non ha sentito nessuno. Abusivo. Sto facendo roba di pesca qua. Capito? Allora ti stavo ascoltando, capito? Però poi non riesco a fare nulla. Parla con Marco e io continuo a fare quello che sto facendo qua, dai. Canna, ma non dalla spiaggia, a galleggiante sto andando. Ah, ho capito, dai, tu stavi con le luci, no? Cappa. No, che pesca brutta quella, ragazzi. Ma, vabbè, ognuno sceglierà quella che mi piace di più. Va bene, avanti, ecco. Eia, maialino in barca non ne ha bisogno, lui cammina sulle acque come Gesù Cristo. Eia, Natali, cosa stai preparando? I calamenti? Te li tieni già pronti? Se no poi un macello, Mi stavo dando una sistemata alle canne da pesca, capito? Bisogna sempre va. Eia, una domanda, ma quando tu lanci il galleggiante non fa da freno aerodinamico? Oppure siete tipo scoglio e c'è già l'acqua profonda a pochi metri? Quando tu lanci poi c'è un freno che lo metti alla profondità che vuoi tu, quindi lui va a pescare dove vuoi tu. Se tu lo vuoi a 5 metri, più di 5 metri non scende. Se lo vuoi a 10 metri, scende a 10 metri. A quanti metri vuoi tu? È regolabile. Eia, no, io avevo... No, galleggiante più che altro se andavo da bambino, tipo al Silis, ma più che altro così tanto per giocare, me. No, sempre a fondo ho pescato, sempre a fondo. Però questa cosa del galleggiante, vabbè, a pesca non sto più andando perché mi sono rotto. Si può provare che ho tutte le lenze fradice, devo cambiare tutte le lenze ai mulinelli che ci sono da 15 anni credo. Vai Franco. E io anch'io peschicchiavo, ma poi mi sono rotto le scatole a stare col di notte, col freddo, con l'umidità. Se voglio il pesce non piglio al mercato. Caspettina. Marco, è un hobby come un altro, va. Il freddo, ti sappi come faccio io? Io mi porto anche il giubbotto, se c'è da mettere il giubbotto me lo metto, cosa c'entra quello? Sì, lo so Natali, diciamo che prima avevo più spirito d'avventura, stavo anche di notte, tardi, quando andavamo con gente, adesso non ti voglia. Vai Franco. Franco, fai da ponte che Eugenio arriva molto basso. Ma lo credo, c'è il telecamore in giù. Tu proprio in questo periodo vedrai che tutto è questo qui. Guarda Marco, io dico che ho delle canne, le ho delle costruite, metto da parte, tutto quanto, le trovo più studio, tutto quanto. Anche io sono la mente che dovrebbero essere cambiate, perché sono tanti anni che non pesco più, non sono andato più a pescare. E dovrei cambiarle quella mente lì, quella mente. Perché l'ultima volta che sono andato, magari anche se le lavi all'esterno, all'interno non riesci mai a lavarlo la mente del mulinello. Sì, infatti, al centro non arriva bene l'acqua, no, ma poi sono state usate, sono ferme da 10 o 15 anni, quindi vanno comunque cambiate, sì. È che io non agevo più gana. Ah, ho letto per il permesso di pesca, no? Io l'avevo fatta nel 2010. Il permesso gratuito è uscito il decreto, praticamente non va rinnovato, vale il permesso vecchio, non va rinnovato nemmeno. Io l'ho pure perso il permesso, se trovo, guarda, la pagina salvata me lo stampo di nuovo. Me l'avevo fatto nel 2010, ho l'hard disk esterno, cerco se c'è proprio il documentino salvato e me lo ristampo. Me lo sarei anche plastificato, perché la carta si rovina, poi quando c'è roba la pesca c'è umidità, si bagna. Me lo volevo plastificare, ma tanto se non vado è inutile che me lo fa, che me lo ristampi pure. Guarda, io almeno fa capire che chi l'ha fatto nel 2010 non lo deve rinnovare, però non ho capito se chi lo vuol fare nuovo, se lo può fare o no. perché il sito era bloccato da tempo, erano in attesa di questo, come si chiama, questo decreto per il 2017, se no mi, come mi ha detto Gianni Lupirun, vai alla capitaneria, portatore, se te lo fanno sul momento, non devi stare a zuffarti con internet, te lo vai lì e te lo fanno, almeno salvo imprevisti. Anche per sapere se vale ancora la vittima e qui nel luogo, se lo fanno loro, anche per sapere anche quello, perché loro magari sono due giornate di uno, cioè, capito? Ma io andandoci, per esempio, nel senso sono vittima e ciò, che dovrebbe essere nel 2010 lo stesso. Sì, guarda, tu su internet vai su Ministero Politiche Agricole, mi pare, no? Pesca Sportiva, no? E c'è la pagina apposita. E il decreto dice che è stato rinnovato, vale quello del 2010. Eia. Peccato che io, quello che, ripeto, quello che mi ero stampato, l'ho smarrito. E se trovo questa pagina... un documento, non so, non mi ricordo com'era, insomma se trovo la pagina internet salvata me lo stampo da capo, capito? Vabbè che ormai a pescare, boh, non lo so, vabbè dai. Eugenio, sei arrivato a lavoro? Anche quelle sono buone le cose di terra, caspita, anzi molto meglio delle cose di mare. Perso è Eugenio, sento che parla sul fondo ma non riesco più a capirlo, finché ha detto sono al porto l'ho capito, poi più niente. Dai, digli buon proseguimento, buon lavoro, buona fine serata, dai, se mi sente, ma meglio lo dici tu, dai. E beh, Natali, sempre facendo? Eia, come nuovo iscritto me lo sto rifacendo. Ah, quindi hanno sbloccato la pagina, te lo puoi rifare, sì. Eia, come nuovo iscritto, ti lo vai, sì, ti lo vai, adesso vediamo un po'. Oh, io avevo capito che chi l'aveva fatto nel 2010 non lo deve rifare o non lo può rifare perché vale quello del 2010. Oh, è tutto un casino, va bene Natali, tanto io già non ci andrò più a... Pensa che c'ho da 2 o 3 anni un fuciletto medio nuovo tipo Mary Sten, però è della Homer, lunghezza media, no? E nella busta, nuovo, mai usato, è nuovo e luccicante dentro la confezione originale. Pensa che lo devo ancora riempire di aria con la pompetta. Non ce la faccio più a fare quell'attività. So come rendi, capito Natali? Non c'ho più fiato. Anzi, certe volte inviare fame d'aria. Qui da Lidl sai cosa vendono? Anche perché ha avuto problemi di cuore, no? Da lunedì venderanno quello che metti al dito per misurare l'ossigenazione del sangue. Lo volevo pigliare anch'io per capire se c'è qualche problemino di ossigenazione. Costava poco, 19 euro e spiccioli. E ti conta anche le pulsazioni del cuore, c'è il display a colori, bellino mi. Eia. Certo, sono quelle marche Lidl, ma guarda, io ho preso un misuratore di pressione, l'ho confrontato con quello Omron da polso, è bello, e segna bene. Poi è bello display illuminato, so che è da braccio, quindi se sei in inverno ti devi tirare sulle maniche. Vabbè, comunque è molto bello, molto bello. E io soffro di pressione bassa lo stesso. prima ce l'avevo 120-130, cioè era buona la pressione, adesso il mio fisico è cambiato ed è prevalentemente bassa. Vai Franco. Lei per quelle cose, Marco, non vuoi prendere roba buona, roba professionale, per misurarsi per la pressione, queste cose qua, andare in farmacia direttamente, prendere le tesini, non è tanto bello. Ehi, ma sai cos'è? Io l'ho confrontato con quello da polso della Omron. Sì, grosso modo segnava gli stessi risultati, cioè non è roba nemmeno roba cinese, sono abbastanza buoni, affidabili, è una marca tedesca che vendono da Lidl, anche quel misuratore è carino, però mi sono già messo da parte i soldi, devo prendere, esce giovedì, un caricabatterie da auto e moto, cioè va sempre a 12 volt, però quando c'è una batteria da moto gli mette le ampere basse di ricarica, quando gli mette una batteria da macchina mette le ampere più alte automaticamente, e mi serve per lo scooter per tentare di salvare quella batteria, se è salvabile, perché tanto mi guarda, c'ho un caricabatterie grosso, però è vecchio di 30 anni, mi pare che non funzioni nemmeno più, l'ho provato l'ultima volta e non segnava nulla, non saliva proprio la lancetta, e siccome è pesante c'è una cosa obsoleta ormai, io volevo pigliare questo Elito, 18 euro, è piccolino, è tipo, sai, quelli tipo inverter, tutti ne hanno parlato bene, ho guardato le recensioni, c'è un piccolo display digitale dove ti fa vedere lo stato della carica, insomma me lo devo prendere, me lo stavo tentando da tempo, da mesi me lo sto tentando, ma non arrivava mai, giovedì arriva e me lo prendo. Sì, quello che chiama un 12-24, per caricare la moto la carica 12, inciso, mentre 24 per le macchine, per fatiche grandi. Anzi, quello è solo 12 però, non li fai 24. Però, ripeto, per la moto che ha pochi ampere, la batteria fa una carica da tipo 0,6 o 0,8 ampere di carica. Invece per le macchine carica, insomma, più alto in proporzione alla batteria. Guarda, c'è un bel di cosette belline da lì. C'è un bel di roba per la macchina questo giovedì. C'è il click, quelli grossi, pneumatici, c'è il kit di lampadine per macchina, H4, la Opel Agila l'H4, e c'è il kit completo 6 fuscia, 6,90, e c'è tutto, le luci a terrori, le luci di posizione, gli stop, forse anche le frecce ci sono. Perché io ho lampadine buttate così sparse, ma non ho i fari anteriori, capito? Non ho proprio gli H4. E per obbligo bisogna portarli, mi pare, se no la stradale può fare storie. E mi prendo anche quelli, dai, così sono a posto. Dipende da dove, come mi fa. Io ne ho uno, non mi ricordo neanche la domanda. Sì, guarda, quello grosso che ti ho detto era 12-24, andava bene anche per batterie tipo camion, furgoni, quello che è. E ci aveva una carica, infatti è bello massiccio, ci aveva carica bassa, media, medio-alta e alta. L'amperometro arriva fino a 20 ampere, quindi magari metti che di a 15 o 20 o 3, adesso non mi ricordo bene. Così ce lo leviamo di mezzo, lo porto all'autoparco e lo buttiamo, però prima mi devo accertare se funziona o no. È vecchio, mio, ha più di 30 anni, l'aveva comprato nonno a suo tempo, buon'anima. Sì, autoradio adesso. Pensa che nell'Agila è incorporata l'autoradio. E tutto un cruscotto si è rovinata. Non funziona più niente di quell'autoradio. Purtroppo lì è un problema. Perché devi togliere tutto quel blocco di blocco autoradio. Poi la Opel, volendo, vende una plancia doppia, però costa 80 euro, cioè un pezzo di plastica, 80 euro, e ci puoi mettere che solo sia l'autoradio che il baracchino, non è male, mica un'idea, già ce l'ho qualche baracchino che ci sta, so che sempre spese, poi a fare i collegamenti, mamma mia, tutto da capo. Poi ci vuole l'autoradio nuova, alla fine ho detto al diavolo tutto, la radio me la ascolta a casa, la musica, pazienza. E purtroppo macchina vecchia, cioè problemi grossi non ha mai dato, tranne la pompa dell'acqua, vabbè, era stata cambiata, ma quella macchina va sempre, è un trattore quella Opel. L'avevo presa usata, funziona il clima, funziona quasi, avevo cambiato anche il comando dei vetri elettrici che si era bruciato, ho visto proprio uscire il fumo mi dal pulsante dei vetri elettrici, e perché si era piegato il contattino, aveva fatto un corto proprio, meno male che c'ero io, se no pigliava a fuoco tutto. E per esempio il comandino nuovo per i vetri, lato guidatore, no? Che funziona anche per il lato destro, 80 euro l'Opel, pezzo originale, 80 euro, sì, a botte di 80 euro, lo stesso una chiave, la copia della chiave che c'ha il codice, no? 80 euro anche la chiave, ma tutto 80 euro lì, lancio autoradio, tutto 80 euro, guarda è un latrocinio mi, solo perché c'è il codice, solo la chiave varrebbe pochissimo, un pezzo di ferro, e sono cari, e purtroppo se la fai senza codice la chiave non prende, non funziona, ho già provato, c'è una chiave a cui si è rotto quella parte che c'è dentro, è solo il pezzo di ferro, diciamo, di chiave, sagomata, non apre proprio. C'è troppa elettronica in queste macchine moderne, una rottura di palle. Ma stavo parlando di autoradio io. Stavo parlando del 440. Stavo parlando. 440. È un rotto. Ah, la radio, inteso. E cosa succede? Oscilla l'audio, hai detto. Sì. No, non è che l'audio. I numeri ci sono abbassati. Non sta volendo. Ma cosa è successo? Sono apparsi i puntini sul display al posto delle scritte, dei numeri. Allora, quello è il famoso, conosciutissimo problema del VCO. Purtroppo lì praticamente hanno usato in certi componenti del materiale isolante che poi col tempo si deteriorava, diventava conduttivo e manda in palla l'apparecchio. Quello purtroppo è un problema notissimo. Va mandato a Bianconi e te lo mette tutto a posto, però si piglia anche, non so, si piglia 100-200 euro. È successo anche a Claudio, un bel di gente è successo. Il problema del VCO, o come si chiama, adesso non me lo dico. Bianconi è un mago, però si fa pagare bene, però te lo torna nuovo, gli cambia tutti i condensatori, tutto gli cambia. Esatto, sì, ho capito. Ho capito che non cambia più i condensatori, però il problema del VCO non è di quella, non meno che... No, perché dice che poi progressivamente peggiora, può dare problemi più gravi se non si risolve. Inizia con i puntini sul display e poi peggiora. A meno che non te ne pigli uno, un 440 già revisionato da Bianconi, quello lo vendi o lo tieni come ricambi di altro tipo, sai, lo chassis, altri, quindi tu dai. Io avevo provato il 140, ho avuto il 140, me l'ha venduto Gianni in doppio room, però vedi, con la mia voce non rende, con la voce di Gianni in doppio room non rendeva, con la voce di Claudio è una bomba, bisogna avere le corde vocali giuste per quell'apparato. Io sono sempre uscito meglio con i baracchini, ma col 440, col 140 più l'MC60 non spingeva, non veniva dalla VLA. Tu hai la voce abbastanza bassa, diciamo, esci abbastanza, esci bene, non abbastanza, esci bene. Io sto usando uno di quelli, sto usando la C80, la MC60, sto usando. €400, è vero che quello del 440 costa di più, costa molto di più del 140. Guarda, io il 140 poi l'avevo rivenduto, l'unica cosa che piango del 140 è lo smitter, perché lì potevi dare dei controlli affidabili come segnale, arrivava fino a 960, insomma è uno smitter impagabile, solo per quello era da non vendere. Però sai, ho sempre preferito i baracchini, come Claudio per esempio preferisce gli HF, io ho preferito sempre i baracchini. E vabbè dai, questione di scelta, adesso sto usando un baracchino che non vale, se lo vedi non vale lo schiaffo, non ha nemmeno lo smitter, ha l'altoparlante frontale ma non ha smitter. È modello Intec M150 Plus, un omologato è praticamente. E il microfono, vabbè, amplificato ZG da palmo. E lo sto usando un po' perché era fermo da mesi e non vorrei che si rovinasse questo apparatino. Questo vedi, io lo metto in macchina, se me lo rubano, pazienza, buon viaggio. Ma se mi rubano il 3900 sì che lo piango. Sì, già più che vero. Quando ho 2009, quello lì è un altro tipo di radio, quello è buonissimo, è una bella radio quella, figurati. E vabbè, ormai io, guarda, mi sa che quasi quasi portiamo a Bianconi e non lo faccio fare, che ne vale la pena. Oppure darlo così, a prezzo di... che basta. Così qualcuno se la gesterà. Se no voglio rimane lì, non è questo il problema. Non è che mi dispiacerebbe di tenerlo qua. Eia. Che poi io ho detto €200 così e l'ho buttata così. Mi è sembrato che fosse così, ma può essere sia anche €100, 150. E a quel punto io lo metterei a posto. 440 già è di un certo livello, non è il 140. Poi casomai se senti Claudio gli chiedi i prezzi, perché lui lo sa qual è il prezzo che chiede. Però ricordati, te lo fa nuovo, cambia condensatori, l'ottara, tutto, te lo revisiona completamente. Tu una volta che lo porti da Bianconi ti può durare altri 30 anni, 40 anni, 50 anni, capito? E beh, quella è una bella bestia. Ok, Natalino, ci sei ancora? Stai ancora preparando esche e company? Tutto fatto. E c'è bello che Natalino, Franco, Natalino si appenta a non vedi roba, mi sto sempre facendo roba. davanti al computer vedo che se la cava, è abbastanza bravo per come mi ha raccontato. È sempre vendiroba Natalino, capito? È abbastanza attivo, dai, meglio così Natalino. E allora, bisogna fare, chi si ferma è perduto. Già lo credo, non dirlo a me, mica sono sempre così a grattarmi le parti basse. E vabbè, adesso mi ho pulito il cavo di questa base magnetica, c'è un dito di polvere. Devo fare una prova, Franco, perché a Bancali ho usato quell'antenna da un metro di Diamond, no? Però c'è un attacco a portiera e una base che la puoi mettere a cofano, a portiera o a baule, dietro, no? È orientabile in tre direzioni, la puoi mettere come vuoi. Però attacco a portiera un po' più bassa. Io sono convinto che se la metto al centro tetto con la base magnetica fa da piano riflettente e rende di più in PMR. O anche per l'ascolto dei radioattori, migliora. E insomma sono prove da fare, dai. Qui fra poco con Pomponio ci organizziamo col digitale. Oh! Sì. Guarda che nella macchina qualsiasi tipo di antenna al centro capoccia è il miglior punto che ci sia, ma in tutti, anche il 27, qualsiasi tipo di antenna al centro capoccia è il migliore. Eia. Poi ho notato una cosa, allora questo attacco si chiama Froxel MB 470, MB, Mike, bravo, 470, è molto versatile perché lo può orientare in tre direzioni, no? E quindi anche se in verticale, come con la portiera, te lo puoi mettere sempre col verso su, no? Ci avviti l'antenna col piede. E cosa volevo dire? Bah, Alzheimer galoppante, mi... ecco, ho notato che questo attacco è isolato dalla carrozzeria, c'è una piastrina di metallo tenero che impedisce che le vitine quando stringi rovinino la carrozzeria, no? Ho provato a usare questa antenna bibanda, no? Sia facendo la massa effettiva con un cavetto che va a un bullone e sia senza massa effettiva. Questa antenna in PMR è uguale, ha le stesse stazionarie, sembra che lavori, e può darsi pure me, che lavori senza massa. L'idea che ho io è quella, ho il rosmetro proprio VHF-VHF, no? Ho provato, sia con massa che senza massa non cambia assolutamente la ricezione e le stazionarie rimangono uguali, 1.1, 1.2 massimo. E quindi a questo punto anche con la base magnetica dovrebbe rendere bene al centro tetto. È una prova che voglio fare. Oggi vabbè, volevo uscire, però qua non vogliono uscire, anche a fare una passeggiata a Platamona, se no mi sarei messo d'accordo con Pomponio, avrei fatto le prove da tipo da Platamona, Porto Torres, con tutte e due le antenne messa al lato portiera oppure sulla base per vedere se incrementa la... secondo me incrementa, come hai detto tu, incrementa sempre di più perché anche c'è proprio il tettuccio che fa da piano riflettente. Ma una corta per me non ce l'ha di quelle antenne. E il cattivo riflesso, cioè è molto diverso da metterla a un fianco oppure dietro, è molto diverso. Se hanno riflettente ce l'ha più in capo, mi segna da fare. Se trovate tutte le trovate quelle. Eia. Natalino, sì, avete parlato in due. Natalini, ma tu la vuoi per ricevere tipo i radioamatori o anche per trasmettere la... Trasmettere e ricevere, cosa mi servi? Che non sia tanto visibile, capito? Che io mi porto il bau bau. Bau bau. Io ne ho un bel di antenne, ci ho quelle ultra sottili con la basetta da 3 cm, col cavo RG 174, poi due sempre 50 cm più spesse, col cavo di G58 la base da 8 cm giù di lì, e poi tutte quelle grosse, cioè la Diamond che non è grossa, è lunga un metro, Diamond NR770H, poi ho la copia della Diamond SG7009, 1,58 m di antenna, solo che quella è grossa, enorme, spessa, mi pare una spada, solo che è nata lì. Due di quelle antenne, sia sottile che più grossa, da 50 cm, non vanno bene per il PMR, vanno stazionarie. Quelle che sono proprio tarate per il PMR, quelle purtroppo non le posso dare, sia quella fine che quella più grossa. Guarda, io ti dico già cosa devi prendere se vuoi usare il PMR. Oxin VU1510, ripeto, Oxin VU1510, quella con la spiralina, non quella con lo stilo dritto, quella sai perché è tarata per il PMR? Perché non è, a parte che V e U, non è 430-440, ma è 430-450, quindi il centro banda ce l'ha intorno ai 440 ed è ottima per il PMR. Non mi sente nessuno, no. C'è una bella base forte ed è lunga meno di 50 cm, tipo 48, 46, capito Natalia? Se la vuoi più sottile, quelle proprio fini fini, il cavo perde un po', però è sempre meglio del gommino, perché primo perché è una 5 ottavi, secondo perché la puoi mettere al centro cappotto e quindi rende molto meglio. In quel caso devi prendere la Oxin VU201, Oxin VU201, che lo stesso ha il centro banda ai 4,40. Ma quanto costa però? Fino al giorno 2, mix. Costano pochissimo, Natalia. Allora, quella fine, fine, fine costa 10 euro, 10-11 euro, più la spedizione. Invece quella un po' più spessa, con la base da 8 cm, lo stesso una miseria, tipo 15 euro più la spedizione, costano pochissimo Natalia, costano veramente poco, costano meno di quelle che avevo preso prima. E risultati discreti, perché la cicotta ovviamente Natalia. Io metto quella da un metro perché ho il ricevitore appresso, no? Io ho lo scanner, mi ascolto i radiatori quando guido, quando mi fermo, quando si ferma, allora puoi staccare il ricevitore e attaccare il PMR, è modulà, capito, però mai in movimento. E se ti trovano il bao bao mentre stai camminando in macchina, mentre guidi, non è che lo puoi staccare, imboscare e riattaccare lo scanner, capito? E poi cosa mi è rimasto? Anche la copia della Diamond CR8009, lunga 1,29 m, grossa lo stesso come una spada. Quella però rende, guarda, la CG7009 è quella che rende più di tutte, perché è una 3x5 ottavi, è una collineare e c'è anche stazionare basso in PMR, capito? Però ripeto, quella per te è quella che dico io, Oxin VU1510. Aspetta, Marco. Dimmi pure Franco. Allora, per il PMR, c'è la Sirio C440, vai su internet, C440, della Sirio, ed è... Sarà 50 cm, è da mettere sul petto, è da base, la base fissa, la lunga, da 4,5 dB, lucia, va, salone, 440, 455 MHz. Questa è proprio per la PMR. Ce l'ho. Io ho questa attaccata al balcone. Sirio CX440. Corta, perfetta, perché se no toccava il piano di sopra. Chad, ho controllato col rosmetro, è incredibile, c'è una banda passante allucinante, dai 4.30 ai 4.50 o anche 4.55 c'è un ROS bassissimo e tiene anche un bel di watt, ce l'ho, e che fatti dare il numero da qualcuno, ce l'hai WhatsApp, fatti dare il mio numero da Claudio o da chi vuoi e ti faccio vedere l'installazione mia anche. Certo, non è sul tetto, ce l'ho sul balcone, perché se no mi servivano 50 metri di cavo, però devo dire che è ottima, è essenziale, non ha radiali, è corta, è massiccia, poi bella. Ecco, Natalino invece voleva una antenna da macchina veicolare, è la Sirio V1510, è quella che fa per lui. Sì. No, io ce l'ho ancora, l'ho comprata, ce l'ho ancora dentro la busta, quella antenna lì, quella lì che avete, la 440, ce l'ho ancora dentro la busta, non l'ho piazzata. E un giorno la proverò, vedere com'è. Va bene signori, dai, io vi devo lasciare, e ne approfitto, e devo uscire. Ci sentiamo per il prossimo anno, magari più tardi se coincide. Ciao Marco, ciao Carino, buon proseguo, buon tutto. Ripeto il domande per girare, ciao. Scappa, eia. Ciao Franco, dai, buon proseguimento di serata, poi entreranno gli altri se vuoi entrare. Ok, Natalino saluta Franco che sta chiudendo. Ciao, sento a Franco, ciao Franco, buon tutto, alle prossime. Eia, ciao, ciao. Capitolai Marco, cosa ti volevo dire, io ho la base magnetica, però quell'antenna è troppo lunga quella che ho io, capito? Se mi metto quella lì è un pugno in un occhio. Eia, però gli accorgimenti sono quelli, mentre guidi devi lasciare lo scanner attaccato, già ce l'hai, poi quando trovi un punto buono, come faccio io, stacchi lo scanner e attacchi il bau bau. Eia. Ma tu perché una antenna VU, cos'hai tu di antenna veicolare per quelle frequenze? Quella alta 1,5 metri, è troppo alta, è troppo, ui. Stavo cercando una piccolina, se no me la faccio io con un PL, ci metto molto. Quanto è? 19,5 centimetri. No, Natali, io ti consiglio di prendere quella, che è già bella rifinita, perfetta, c'ha la sua base, poi la calamita è un bel forte, non la perderai mai quella. E fammi fare mente locale. Vabbè, poi ti farò vedere, ti manderò la foto di com'è. Ti manderò la foto messa sulla cappotta. E la riconosci perché c'ha la spiralina, no? Tipo a metà altezza, in punta una pallina di metallo tondo. Invece io tempo prima da IL Elettronica avevo comprato la Comtrack, sempre lunga circa 50 cm, però in PMR ha 1,7 di stazionarie, che dici non sono eccessive, si può usare lo stesso, però un po' perde di reggia appena. Invece quella Oxin è bella centrata, rosmetrata, è tutto già verificato, era ottima. E tanto la cifra è misera, la cifra Natalina. Ma sai quante ne ho comprate queste antenne? Poi quella sottile che ti ho detto, che ha il cavo RG174, quello fino, quella è invisibile, basta già da 4 metri non la vedi proprio, non la vedi. Naturalmente il cavo è di 2,90 m, sì, non è che perde molto, però si sente già la resa migliore di quell'altra, quella appena più grossa. Però se uno vuole essere discreto va bene anche la Oxin VU201, quella fine. Naturalmente la base magnetica è da 3 cm, fa meno massa, insomma, rende un po' meno, appena appena meno, capito? La base magnetica ce l'ho quella grande io, ne tolgo quella, l'antenna ci voglio mettere l'altra, più corta. Comunque la lì, se tu vuoi un'antenna con attacco PL, ci sono antenne amatoriali, ce ne sono tante antenne amatoriali corte. Il problema è che non hanno il centro banda per il PMR, ti capisci? Quelle hanno il centro banda intorno ai 4,33, un po' spostato verso il basso, no. Però quella che dico io, cioè, è fatta proprio... non solo, anche per la banda amatoriale, però è centrata sul 440, capito? C'è il centro banda lì, è perfetta. Sì, infatti, però non ha l'attacco a PL, così. No, è tutt'uno, antenna, base magnetica, tutt'uno. Poi alla fine c'è, la puoi scegliere, che dopo il cavo c'ha o il PL o il BNC, a tua scelta. Ci sono due versioni. Io l'ho presa... come l'ho presa? Non me ne ricordo nemmeno. Cosa c'ha PL e BNC la mia? Non me ne ammento. Comunque non è un problema, perché se c'è l'attacco PL, fai la riduzione, prendi la riduzione da PL a SMA o SMA reverse, non mi ricordo cosa c'ha quello tuo, oppure viceversa, anche se c'ha il PL e BNC dopo il cavo, no, da attaccare l'apparato, da PNC a SMA reverse e risolve il problema. Qua ci sono un'infinità di spinotti e adattatori, quindi il problema non si pone mai, Natalia. Ma già lo so, già lo so. Il bau bau. Comunque secondo me la migliore, il miglior compromesso, almeno per me, parlo per me, è la Diamond NR770. Perché? È 2x5 ottavi, è abbastanza sottile, no? Non è di chissà enormi, è in acciaio inox, bella cromata, cioè è eterna praticamente, e c'è una buona resa, un metro poi è la lunghezza media. Ecco perché io mi porto sempre lo scanner e poi anche il bao bao, capito? Ma io la voglio nera, in modo che sia una cosa anonima. Sì, sì, la occhina è nera, tutto nero, base e stilo. Così almeno si vede di meno. Una volta andando a Portamona c'era la polizia, no? Normale controllo. Avevo il ricevitore giustamente attaccato, stavo ascoltando il radiatore, cioè non c'era, non ce n'erano, però stavo facendo scansione sulle bande amatoriali. Hanno visto l'antenna e dice: questa antenna cosa serve? Ho detto: per ricevere i radiatori. Ah, va bene, cioè non controllano nulla, non gliene ha fatti nulla, no? Bene, bene. E poi quando li metti il veicolare su quella NR770 è la mano di Dio, già quanti volte c'è quell'apparato, no? Quel bel display grande, quello in macchina sarebbe un bijou, quello potente. Infatti, che sono un bel 20 watt in UHF, un bel... quanto c'ha quell'altro mio? 35 ne ha in UHF. Però vabbè, non bisogna esagerare nemmeno, perché giustamente si può disturbare qualche servizio adiacente, qualche... non so, c'è sempre meglio non esagerare, ecco. Vabbè, finché sei in macchina no, non succede niente, perché soprattutto se sei fuori città, in movimento, il segnale va e viene, dai. Sì, quello va, il mau già va bene. Aspetta, se va bene. Poi se è quello da 8 watt è ancora meglio. Per esempio vendevano quello uguale al mio, il 5R con 8 watt. circa 3, magari 8 li dà in VHF, in UHF ne dà 7, però almeno c'hai, puoi selezionare 1 watt, 4 watt e 7 watt. Magari lì possono fare la differenza in quelle frequenze. Però bisogna prendere quello robusto, perché alcuni apparecchi, qualcuno UV5R, UV9R, come si chiama, hanno avuto problemi al finale. C'è una versione invece che è fatta bella robusta, fatta apposta per usare la piena potenza senza avere problemi. Io non so se c'è qualcuno all'ascolto, chi c'è all'ascolto, chi vuole entrare avanti? Te l'ho detto che sono tutti, gli anziani sono tutti a riposare, se no non ce la fanno a entrare in sera. Infatti, io ho quello giallo e nero, ne ho due. Giallo e nero? No, non è arancione e nero. Voglio dire arancione e nero. Eia, è molto bello anche quello. Vabbè, io ho preferito il 5R, i plus, UV 5R plus. Lo stesso di Pomponio. E anche con antenne esterne non ha nessun problema di ricezione. E cosa volevo dire? Quello di Pomponi è tutto consumato, mi c'è i tasti numeri consumati, con i numeri mezzi spariti, sembra che l'abbia grattugiato all'anima. Io lo tengo come una reliquia, lo sai, anche se vale 30 euro, no, costa 30 euro, però lo tengo come una reliquia. Io ho anche la batteria potenziata per uno di quelli, cazzo, è pauroso, i miei sono nuovi, non sono usati, si può dire. Non l'ho comprato, uno per me e uno per mia moglie. Eia, ma non li avete mai collaudati? Collaudati, provati qua, gli ho. Sicuro, la stacco l'antenna esterna e ce la faccio sentire. No, aspetta. Normale. No, adesso... va, il tasto. No, adesso non c'è bisogno, aspetta. L'altra volta ho provato le MT5050 con 2-3 watt, no? Detto, ma massimo arriverà da casa, mamma c'ha la camera verso giù, no? Verso mia mano, verso tutto il centro, no? E lì c'aveva lo stesso le MT5050, io avevo lo stesso. Arrivo da Delugu, fondo scala, che c'ha lo smitter, no? Questo fondo scala. Scendo in via Mazzini, no, che è la via di Delugu, no, che costeggia il tribunale, scendo e mi sente sempre, alla fine sono finito in corso Regina Margherita, con le spalle al muro dove ci sono i parcheggi, no, angolo via Mazzini, corso Regina Margherita, e prendeva ancora me, solo quando mi spostavo dal, perché sai, in via Mazzini c'è un tunnel, diciamo l'onda radio arriva diretta lì, dalla camera di mamma presso di me. Poi piano piano mi spostavo verso giù, allora è sparito il segnale. Però caspita, figurati se parli dal tetto, da un palazzo alto, quanto imbatte. Infatti, non so se arrivo con l'antenna sua lì da te. Proviamo, aspetta, metto la frequenza. Vai. Ecco, ho messo il canale, prova un po'. Oh, nulla, aspetta che ti rispondo con l'altro. Già sei su 081, sì, o 080. Parla, che ti faccio sentire, parla là. Va bene. Allora senti, arrivi. Ah, eppure la mia antenna è verso di te, l'antenna lì è verso di te. Ma sai cos'è? Lì è molto stretto. È molto stretto, dai. Chi è? Concetta. E chi è? Chi è? Chi è Natalina? Non si sa. Cazzo di immaginelli, bobo. Ho detto, ma forse... credo fosse... Concetta che mi stava facendo uno scherzo, una vocina. No, se... ti pare che... tipo, è coricata, il divano, con questo cavolo di tablet in mano. Eia, ancora sono ancora a pulire la base. Bella questa base, una Sirio, com'è che la chiamano? Da 16 centimetri, mi pare che si chiama Sirio 160, è 16 centimetri di larghezza ed è piatta piatta, non so se la conosci, piatta piatta e larga. Ma hai vista quella che ho io? C'è nata quella base magnetica lì con una di quelle, come si dice, una di quelle, con la, che c'è l'attaccapiede, mi toccherebbe modificarla, se non ho, perché è troppo alta quell'antenna. Che... Nata lì, non sarà per quelle 15 euro, no? Guarda, l'importante è che non la comprare da Tecnocomunicazioni, perché è un pasticcione e ti manda roba diversa da quella ordinata. Io quando ho ordinato quella fina, anziché la Oxy mi ha mandato un'altra cosa. E mi ero infatti scocciato, mi avevo detto al telefono, mandate solo la roba che ho, non mandate roba simile, perché poi... Invece poi è risultato che quell'antennino che mi hanno mandato funzionava altrettanto bene come la Oxy 201. Vedi le cose strane? Era marcato Telecom, pensa, Telecom. E beh, non ce l'hai quella lì. Ce l'ho, quella è tarata per il PMR. Ma quella non si dà. Quelle sono di mio uso e consumo. Ah, io una a me, gatta, se no la facciamo uguale. Me la fai vedere, la faccio qua. Ricordati che la roba è pronta. La roba pronta è più bella, è più elegante, è perfetta, è rifinita in modo eccelso, Natalia. Vabbè. Vuol dire che il giorno 2 me la ordinerai e me la farai arrivare, perché io non ho la carta, ma la devo annullare quella che ho e farmi una carta nuova, capito? Allora sì, questo è un bau bau. Eia, che carta hai tu, Natalie? Quella l'automatica. Giulio, tu sei? No. Vabbè. Ah, Giulio. Ehi, hai letto la via, quella viuzza, strada vicinale, quella della foto che ti ho mandato, hai capito la zona? Allora, ho segnato il punto rosso di dove è la casa. Sotto quel punto rosso c'è un'abitazione, beh, quella è una falegnameria che c'è all'angolo con la stradina Tignoni-Montiminuzzo. Giulio, ma lì mi sentivi? Ah, non mi sentivi? Io ti sento. Matta. Aspetta, rimani lì un attimo. Ascolta, preparo anch'io la roba, dai, un attimino. Natali. Un attimo che preparo l'apparato, Giulio. Io ti sento. Appunto, allora, ti sto dicendo, io ti sento. Ho parlato, non lo so, ma adesso ti ho sentito. Ehi. Adesso? Ho aumentato la potenza e per forza mi sentivi, però non sono con quello Bao. Cosa hai detto, Natalino? Stavo ascoltando un PMR, quanto bello. Ho detto che ho aumentato la potenza, però non sono con quello che conosci tu. Ah, ho capito, sì, vabbè. D'accordo, no, ma io ti sento con l'altro, con quello che mi hai fatto sentire. Ti ho sentito, non so quale sia, però ti ho sentito. C'è Antonello che soprammutua, ma con chi sta parlando Antonello? Con Marco sta parlando. Con Marco? Sì, Natalia, sta parlando con Marco. Ma Marco, ti sento, sì. Natalia, ti ha chiamato Marco? Sì, quando la metto a manetta sì, mi sente. Hai capito o non hai capito? L'avevo aumentato. No, se sto parlando qua. Claudio? Mia, un porco. Scusa, Claudio, avevo il volume a zero al baracchino. Claudius? Io sono arrivato. via Giulio, mi dico, parla che regolo il volume. Ok, dai. 1, 2, 3, attento Marco, come mi stai ascoltando? Vediamo un po' se è regolato, ok, dai. Eia, sicuramente c'è anche Claudio qua. Eia. Sì, Natalino praticamente deve alzare un po' per arrivare da te, Giulio. E vabbè, giustamente ci vuole qualcosa sopra la gabbisciuria, allora si arriva a tutti. Come dire il capo? Beh, stiamo qua. Sì, qua è ovvio. No, ma l'ho sentito con Gommino, lo stesso. Sì, vabbè, tanto sono proprio che facciamo così, niente di particolare. Poi per il resto già abbiamo la 27. Beh, Claudio, no, stavo facendo delle prove perché non so, Natalina non riusciva a arrivare bene Giulio o viceversa, tutto lì. E poi è entrato Pompone, Raffica e tutti gli altri. Bacchisio non lo sentivo perché era, quanto ho capito, nell'agro e dovevo aprire lo squelch e arrivava proprio zero, sentivo e buh. Bene, facciamo l'appello. Antonello, ci sei? Ehi, a parte c'è la bicicletta, figurati. Sì, qui che si mette a fare che la 27 in bicicletta. Già c'è la pedalata assistita. Figurati, si può lavorare io, già non dura nulla con la batteria. Ah, in bicicletta era? Sì, in bicicletta era. Stavo parlando con Portati in bicicletta col Vox inserito. Meglio così. Beh, Claudio, non sei uscito oggi, no? E io nemmeno. Qua non hanno voglia di far nulla e alla fine ho detto, bah, mi attacco al baracchino. C'era Natalino già da presto, è entrato Franco Di Sorso da presto, è entrato a salutare anche Eugenio che stava andando a lavoro anche di domenica. Capito Claudio? E quindi da un bel po' ci siamo, dalle forse 3:30. Ehi, allora già sei in campo, sono uscito alle 2 da lavorare. Ciao a tutti, buonasera. Ho sdraiato, mi sono alzato poco fa, vi ho sentito. Io quando accendo la radio accendo tutto, quindi. Però purtroppo vi ascolto ma non parlo perché io non ho radio omologate per parlare in PMR, quindi non me la sento di rischiare la licenza o la patente per parlare in PMR, ve l'ho già spiegato. Voi fate quello che volete, io vi posso solo ascoltare ma non partecipare né a prove né a niente. Avanti Giulio. Ok qua, è giusto quello che stai dicendo. Vabbè, ma io ho sentito Marco che c'era lì con Natalino e subito in tutto ho capito che stavano facendo delle prove e allora sono entrato con qualche battuta così un po' spiritosa che poi tra l'altro non mi hanno riconosciuto, ma poi mi sono fatto riconoscere, ovvio, perché il gioco è bello quando dura poco, quando dura troppo allora incomincia a essere antipatica la questione. Vero Marco? No, infatti non sapevo chi fosse, credo addirittura che fosse Concetta che mi stava facendo uno scherzo tramite l'apparecchio di Natalino, no? Ah, piuttosto, Natalino, ci sei qua? Natalino, ho rimasto su, e già scende, dai. Tanto io qua ho spento. Comunque il bao bao si difende sempre. Comunque Claudio, guarda che se lo vuoi, tanto tu sei molto in alto, basta mezzo watt, ti do un apparecchietto omologatissimo, omologato, proprio nel vero senso della parola. Quindi almeno con te e con Antonello riusciamo a parlare. Te capì? Oh, ma sto uscendo. Sì, forse hanno chiamato Claudio, faccia altro. Ma noi quelli di cosa, mica, lì non ci sono, quelli lì, che è attaccata la senna, ha voglia. Non metteci. E ti stavo dicendo che c'era un apparecchio monogatto per attaccare alla, come si chiama, per parlare in PMR, quello canalizzato che c'è un autocanale. E vabbè, io non ne ho, quindi non... Ma io posso rischiare a usare le mie radio VHF, che sono da 100 watt l'una per parlare in PMR, non è assolutamente il caso. Se dovessi procurare o avere un qualcosa che mi consente di poter salutare, chiacchierare, allora va bene così, ma io, per me non è possibile fare una cosa del genere, perché... Ho detto, te lo do io, un Brondi omologato, omologatissimo, proprio quello è omologato al 100%, tanto tu sei in alto, mi qua dovresti arrivare, credo, da Pomponio non ne parliamo, insomma, da Natalino forse puoi fare, ma tu possa fare prove, mi. Lo so, però ci vuole una radio omologata dove io non devo avere problemi, io ho due box, anzi no, tre, ma non sono omologati per fare PMR, come la gente pensa, capito? Quindi io lascio pensare agli altri, però io penso a me. Quelli sono da 5 watt, sono apparecchiature portatili amatoriali, professionali, quindi non è che io posso, sicuramente non stacco l'antenna che ho sul tetto per chiacchierare in PMR. Va bene, ok, poi chi c'è altro? Natalino c'è anche. Ehi, sono qui. Ciao Natalino, buonasera. Buonasera anche a lei. Cata, non trovo gli attacchi del PMR, boh. Quegli adattatori, Dario lui. Ah, quello che mi ha fatto comprare Marco, come si chiama? SSA, SMA, cos'è? SMA. Quello, sì, ce li ho anch'io quelli lì per i portatili quando ho fatto in macchina che metto l'antenna con la base magnetica. Io in macchina non la metto di veicolare, uso sempre uno di quelli con la base magnetica e il connettore attacco antenna SMA. È più veloce da fare, capito? A far carica. Tra niente che è punitivi. Riprendi io, Marco. Eia, no, per curiosità, volevo chiedere a Natalino se lui l'attacco della radio è un SMA normale o SMA reverse? Non lo sa. Beh, se è normale basterebbe l'antenna senza bisogno dell'adattatore. Sarà quello reverse, Marco, suppongo, perlomeno che sia così. No, io c'ho quello normale. L'ho avvito direttamente e attacco l'antenna. No, ma per dire, l'UV5R ha l'SMA reverse, cioè anziché avere la femmina sul corpo radio, ha il maschietto col puntale, viceversa l'adattatore ha la femmina e poi si attacca il PL dietro, capito? Sì, perché non so cosa, perché preferiscano l'SMA reverse, non l'ho mai capito, solo per incasinare la vita a noi. Bene, caro Pomponio, sei soddisfatto? Ma domanda, ma tu eri in verticale poc'anzi? E allora, sto dando la Rex 300, l'ho sistemata. Ah, e le stazionarie, mi hai detto buone? Vero, ho segnato per zero l'apparecchio, e lo sai che c'è l'ospite del servizio. Ce l'hai usato anche tu, non è che... E quindi le stazioni proprio non me le segna, mi fa tutte le frequenze. A voglia, c'è anche per i pulci. Abusivi! Chi è che l'aveva detto prima? Natalino, abusivi! Sì, guarda che stamattina c'erano due, verso le 10:30-11, stavo usando il portatile in boffing per andare a cosa, per giocare a spararsi con quelle... con quelle armi giocattolo che sfrutta a vernice. E li ho sentiti anch'io stamattina, quelli che sono partiti col campo, della Torre. Io stavo facendo un video e ci dico, cazzo, tra 2-3 secondi iniziate a sparare. Cazzo, gli ho detto, bubu. Li ho sentiti anch'io. Ma che tipo di sport è quello? Non ho capito. Guerra simulata. Si usano dei fucili elettrici o pistole elettriche oppure a gas e sparano dei pallini di plastica da 6 mm sia a corpo singolo che a raffica e ci si riveste con mimetiche, capito? E si fa squadre tipo liberare l'ostaggio, punto, oppure tutte le tattiche di guerre ma simulate, capito Giulio? Divertentemi. Io avevo tutta l'attrezzatura, ma il mio fisico non me lo permette più di andare. Ah, ok, ho capito Marco. Sì, no, li ho sentiti, ma li ho sentiti anche altre volte, non solamente oggi. Io stamattina, mentre leggevo il giornale, avevo il portatile mio così acceso e sentivo quelle queste che sono. E poi avevo capito che loro vanno col camper, ma si trasferiscono chissà dove, si danno appuntamento e poi giocano con questo sistema appunto. E però non avevo capito in che maniera stavano, sì, sentivo così, però non l'avevo capito. Adesso me l'hai spiegato, ho capito Marco. A Caniga, loro hanno un terreno a Caniga che costeggia la ferrovia, dove loro giocano. Aspetta, il gruppo di Sassari si chiama, come si chiama? Zero Navy Seals, no, ha un nome diverso. Comunque sì. Ma c'è gente, Giulio, che spende cifre spropositate, che si prende veramente mimetiche, attrezzatura militare vera, da farci una guerra. Per cui io invece c'ho cose economiche, capito? Tranne il fucile. Cioè, non devono andare in guerra, non devono andare in Nord Corea in guerra, eppure c'è gente che spende migliaia e migliaia di euro per le attrezzature militari veri, tipo le tute Emerson da 300 euro l'una, il vero casco in Kevlar da soldato, quelli tutti molti ultramoderni, capito? Non c'è bisogno di spendere quelle cifre. Pensa che io nel 90 con un gruppo di amici spendevamo pochissimo, abbiamo comprato da Osciano una tuta fulpa, un completo fulpa da cacciatore, pantaloni e giacca verde, ci divertivamo come matti spendendo quasi zero. Ho capito, non lo conosco questo tipo di sport, caspita. Vabbè, non lo sai come la gente, alle volte per i divertimenti non guarda spese, per cui va bene così, ma quando si fanno delle cose così fra amici che non disturbano nessuno va sempre bene. Lo sport è sempre una cosa esaltante, e qualsiasi tipo di sport, perché questo in definitiva si può considerare uno sport, senz'altro, no? Non credi che sia così? Sì, diciamo, non è proprio riconosciuto tra gli sport nazionali, ma è considerato uno sport, sì. E ci sono in tutta Italia, in tutta Europa, anche in tutto il mondo ci sono gruppi che giocano. Sì, comunque, io avrei voluto farne parte, però sono troppo legato fisicamente, lì ogni tanto bisogna correre in fretta, insomma, non è che stai correndo tutto il percorso, però un po' di agilità ci vuole, capito? Bene, riprendi Claudio. Sì, l'ho visto una volta in TV, era una bella cosa, divertente come struttura, ma hanno delle palline che praticamente poi si scoppiano, hanno una tinta, mi pare, così è. Allora no, quello è il paintball, ha delle palline da 10 mm che si rompono e c'è vernice atossica dentro, no? Il paintball è diverso, perché si vestono con tutte, tipo motociclista, con caschi tutti colorati, con la visiera, no? E si mettono dietro dei ripari tipo gomma piuma, non so di cosa siano fatti. Invece soft air usa palline, anzi ti dirò, hai ragione, una volta esistevano le palline coloranti all'inizio, però sono palline a 6 mm piccoline, no? Come spari si fanno la macchietta in colore. C'erano ancora quelle palline coloranti, però di norma e regola si usano palline di plastica, di solito bianchi, e per non inquinare le campagne stanno usando di questi tempi pallini biodegradabili. Cioè questo pallino sembra di plastica, no? Bianca, poi con la pioggia, con l'umidità, col calore, proprio si sciolgono, diventano una cosa tutto nuovo il terreno. Proprio per non inquinare di plastica le campagne, se no ce ne sarebbero tonnellate di questi pallini. È tutto molto interessante. Pensa che io ci avevo quasi tutto. Mi metti che ne ho, anche giusto per collezione. Fucile ce l'ho, insomma attrezzatura varia ce l'ho, ma a me manca il fisico, sono troppo legato, dovrei andare a correre, fare un po' di jogging per riprendermi, allora potrei tentare. Ci hanno l'assicurazione loro, tutto, sono assicurati, se ti fai male durante il gioco sei assicurato, capito? Una cosa abbastanza seria. Non devi chiedere permessi alla questura, bensì devi avvisare che tutte le domeniche in tale terreno si gioca, tutto lì, capito? Poi bisogna essere naturalmente corretti, cioè se vieni colpito devi avvertire subito che sei stato colpito, no? Come fanno certi che fanno finta di niente, e quello non è sportivo, capito? Allora non ha più senso quel gioco. Ho capito, capito, avanti giù. Ok. Vabbè, anche quello è bello. A proposito, ma il Milan non dovrebbe vincere il campionato quest'anno? Sarebbe dato un gol a cui fare Bonucci. Bonucci ha finito di vincere, te lo posso garantire. Lui ormai tutto quello che poteva vincere in carriera l'ha già vinto, ma non vincerà mai più niente. Lui, per carità, andate. Comunque io da partita ieri sono molto soddisfatto perché ho visto finalmente la Juve, finalmente, era ora. Comunque, adesso vediamo un po' la prossima è a Bergamo, è un po' molto difficile quella. Io vediamo cosa succede. Ah beh certo, se gioco come ho giocato ieri sono molto contento perché ieri c'era tutta la squadra, nonostante che Torino è una squadra in salute al momento, però c'era un abisso. Andate, Natalino, avanti, canta. E come vuoi che canti, alla farba? Come vuoi tu, basta che lo stoni, accettiamo tutto. Vero Marco? Marco è caduto dalla sedia e non risponde. Antonello. Dimmi qua, sogno. Sogna, occhi aperti, sogna però. Vabbè, aiuto, dai, dite qualcosa. Di cosa parliamo? Di fare formaggio, bene va. Allora, bene va parlare di fare formaggio. Formaggio marcio. Pane, formaggio e birra. Tutti i giorni mi ha dato pizza di mamma mia, ci ho finta lungoso. Oggi ho fatto pasta. Vabbè, dai. Già va bene, tutto quello che piace a bocca, alla bocca il cuore tocca, per cui va sempre bene tutto. Vero Cla, ma ancora non ti sei svegliato bene, non ti sento bello pimpante Cla. Sì, lo sto facendo, guarda, ancora pimpante. Sto stampando, stiamo caricando una cosa al computer per domani, perché sono da solo, se non mi dimentico. Mi si è bloccata la stampante, infatti c'è mia figlia che la sta mettendo a posto. Ah, beh, allora la cosa è cominciare a essere seria, ci vuole concentrazione, allora hai ragione, ritiro quello che ho detto. Va bene, prima le cose importanti, poi la passione per la radio, viene in un secondo momento. Avanti Natalia, io canta veramente in sardo, in sassarese, in italiano, come ti piace, canta però. Stavo cercando quell'attacco e l'ho trovato, perché ne avevo due, perché volevo provare quello che si mette nell'orecchio, l'affare per trasmettere, che c'ho anche quello, capito? L'auricolare? Giulio? Sì, dimmi Marco. Guarda che ti ho mandato un video. Io tiro a una taglietta di alluminio da 12 metri, dopo guardatelo tutto con calma, perché ci sono dei momenti momenti che non sparo, ti fai un'idea della precisione, ok? Tiro a 12 metri di distanza, ok? Ti è già arrivato, vedo. Sì, lo sto anche guardando, si sta aprendo, sta caricando adesso e dopo lo vediamo. A proposito, quel numero te lo sei registrato, sì? Sì, infatti fra poco chiamo, 5:30 dai, così evito di ormai avrà finito di riposare, dai, così lo chiamo, bene, bene, bene. Ok, dai, va bene, ti sto guardando, adesso lo ingrandisco se voglio vedere il video, aspetta che lo ingrandisco anche, più visibile. Mi prendi a te. Ma volevo provare quell'auricolare, l'ho attaccato a quell'antenna magnetica. Ma facciamo una prova noi, noi due? Sì, a vedere se arrivo con l'antenna magnetica. Sì, dai, così Giulio, se può, si guarda il video. Dimmi quando sei pronto. Sì, lo sto guardando, però si sta ancora caricando. Si può pure arrivare là, tutto per intero. Vediamo un po'. Va bene, vai. Vai, qua. La tappata è messa a posto. Ma si è rotto un pezzo di filo, aspetta. E prendi Natale. E stavo aspettando la risposta di Marco per vedere se riesco a farmi sentire da lui. Scusa Natalì, un attimino che non riesco a... 12 metri! 12 metri, capita! Povera teglia, come l'hai fatta? Hai visto anche la raffica? Le due raffiche? Sì, ecco, questa è la seconda, sta arrivata adesso, la seconda raffica. Un attimo che sono con Natalino dall'altra parte. Possiamo ritornare, abbiamo fatto la prova veloce. Ehi a Giulio, 12 metri, dal bagno praticamente ero e ho tirato in cucina attraverso la camera da pranzo a una teglietta di alluminio. Hai visto che bello? E lì puoi tirare massimo a 30 metri con quella, con quel tipo di fuciletti, dai. Sembra un fucile vero se l'hai visto. Praticamente è un M4 Colt, la riproduzione del Colt M4. Ok. Sì. Ma ci sono anche i bambini, ci sono da parte giocando, come stanno facendo? L'hai sentito tu? Comunque è un bel attrezzo, deve essere divertente comunque quell'affarino lì, o affarino, no, no, affarino, un affare quasi serio, Marco. Poi ho due pistole, una elettrica con il fucile, cioè il motore gira con la batteria per sparare a raffica, e anche il singolo, e poi appunto una pistola elettrica e una a gas con la bomboletta, cioè una bomboletta grande, ricarichi il serbatoio e spara col gas anziché con l'elettricità, col motore. Chi c'è rimasto qua? Claudio, ci sei? Sono qua, un secondo, sto chiudendo la campana. Natalino, sei riarrivato? Sono qui. Antonello? Sì. Antonello si è sentato. Sì, è divertente, discretamente preciso, magari non è dei più precisi, perché ce n'è proprio che fanno quasi il buco unico. Hai capito Giulio? Vabbè. Ma non è che c'è qualche cosa pericoloso, no? No, diciamo che quando si gioca gli occhiali sono d'obbligo, è obbligatorio usare gli occhiali in policarbonato, poi chi vuole può mettere anche una maschera, una semimaschera, guarda, di maschere ce ne sono tutte le fatture, ci sono maschere neoprene, in plastica, in reticella metallica, ce n'è di tutti i gusti, perché per esempio a uno gli è andato il pallino sul dente e gliel'ha fatto saltare, un dolore inimmaginabile, cioè incidenti ce ne possono capitare, ma appunto loro sono assicurati. Però non puoi giocare se non hai gli occhiali di protezione, è una regola ferrea. Non credo, a quel punto sì, ci mancherebbe altro. Però non va oltre questi piccoli danni, vabbè, se uno lo prenderebbe in un occhio, chiaro che è pericolosissimo, ma mi stai dicendo che ci vuole obbligatoriamente queste maschere, allora sicuramente saranno attrezzate e coordinate in tutto quello che serve per non farti male. Sarebbe da stupidi andare a fare un gioco che poi magari c'è pericolo di farti male. Noi non credo. Comunque non penso che sia cose, non siano cose da bambini, queste qui sono cose per adulti, secondo me, Marco. L'età mi pare che sia o 16 anni minimo o 18, non me ne ricordo, però credo che sia 16 per giocare. Naturalmente se sei minore ci vuole l'autorizzazione del padre, eccetera. Sì, fanno varie cose, tipo liberazione dell'ostaggio, agguato, un po' di tutto. ci sono, addirittura esiste la mitragliatrice a canne rotanti soft tire, costa 2.500 euro, pensa che è il pazzo che se la compra. Ma infatti è questo, quando uno è appassionato per una cosa, anche noi siamo un pochino pazzi in un certo senso, cioè la passione per certe cose, tu immagini quante soldi abbiamo speso noi per la radio, e quelli magari hanno quella passione lì e lo spendono per questo attrezzo, e il discorso è quello. Poi magari altre cose più importanti non le comprerebbero, come non le compriamo noi, per dire cose che potrebbero essere più importanti. E la vita è così, Marco, non c'è niente da fare. Giulio, mira, ti ho mandato due fotografie, guarda un po'. Sì, sto guardando, sta caricando l'immagine, o Natali. Bene. Vabbè, Claudio sta facendo roba, Pomponi si è sentato. Via. Sì, per il serpente. Purtroppo, vabbè, io nell'88-90 avevo 18 anni, 20 anni. Lo potevo fare come niente. Andavamo in zone minerarie abbandonate anche. A Iglesias facevamo escursioni in miniere, no? Proprio per la passione, poi ogni tanto si giocava tipo a Montevecchio, tutto strutture di metallo, cameroni con vecchi macchinari ormai non funzionanti, era bello, bello. Sì, certo. Oh, Natali, ma questo qui è roba di poligono, così è? Sì, quello l'ho fatto io, col cartellone, capito? Morto sarà. Certo. Morto sarà. Sarà che. No, è resuscitato una salita. Vai, è troppo, l'ha dato per aver lasciato. E poi c'è anche l'altra, due te ne ho mandato di fotografie. Quello è quello che ho pescato io, con la canna. Adesso lo guardo, anche il secondo, il primo l'ho visto, il secondo stava caricando, adesso lo guardo. Ehi. Scusate che vado a pigliare la bottiglia dell'acqua, Ok, sono attaccato all'altra. Ah, vabbè che è andato a pigliare la bottiglia dell'acqua. Ma questi sono Sara che sono. E allora? Sara che sono, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io le conto 9, gli altri magari stanno sotto, non si vedono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 io le conto. Gli altri sono sotto probabilmente, Può darsi, no, adesso una delle prime pescate era quella. L'altro giorno erano più grandi pure. E quando le hai prese? Ieri? No, una delle prime pescate che ho fatto sarà un paio di settimane fa, due settimane fa quelli lì. Ok, una bella mangiata, già c'è una bella mangiata da questa pescata così, a voglia, ce n'è. È a galleggiante, lì. È galleggiante, Ma cosa ti sei portato? L'antenna ti sei portato per pescare? E allora? E quello è... bello. Va bene, molto bene. No, io no, non ci sono mai andato a pescare. Spesso di non essere nemmeno capace. L'unica pesca che posso fare io è andare al mercato, quella sì. Quella già la so fare, però per altro tipo di pesca no. Ti diverti, perché è complicato a fare quel calamento lì, però ti diverti. A chi si vede va a rendere galleggiante di notte, no? Perché ce lo sta là, ci si vede una luce verde, praticamente. Quando ci scende quella vuol dire che c'è un boccato. Ho capito, sì. Ci sono le belle tecniche, ci sono. Io l'altro giorno ho visto un video, ed è una cosa che mi ha fatto fare memoria, perché tanti anni fa, quando facevo campeggio eccetera con la famiglia eccetera, in spiaggia era passato un uomo e aveva, tu immaginati, una tovaglia di un tavolo rotondo, che è rotondo, questo in realtà non era una tovaglia ma bensì era una rete grandissima, e c'erano due fili, c'erano, o meglio un filo un po' chiuso, che poi diventavano due in pratica. Lui non faceva altro che lanciarla in acqua, questa cosa si apriva e si cadeva in acqua e faceva la pescata, così all'istante. E in spiaggia via addirittura. Tanto è vero, quella volta quello lì ha regalato mugini o cosa ci sono, quelle che si trovano in spiaggia, a tutti quelli della spiaggia, a tutti quelli che stavano facendo campeggio. Figurati un po', e di quelle reti che si chiudono a sacco sono? È una rete che si chiude a sacco, sì, poi raccoglie tutto, raccoglie alghe, raccoglie anche pietre se ci sono, di tutto raccoglie, e lui faceva questo, ma a ogni pescata, guarda, ne prendeva anche 2-3 kg di pesci. E tutto Russia, chissà, tutto chi subì entra, lo dà anche a 30 rusacco praticamente. Sì, poi a uno a uno lo ritorneva il pesce e il sacco, lo puliva di nuovo, lo preparava, tutto ben sistemato, faceva un altro lancio, lo faceva gettando e tirandolo fuori, così a distanza, non è che doveva stare 2 ore in aspettando, no, lo buttava e tirava fuori, e pescava sempre, tutte le volte che ha gettato ha pescato. Prati guida. Beh, sicuramente sì, ma per dirti no, così in acqua praticamente quasi arriva, quasi, senza quasi, l'acqua all'altezza della gamba più o meno era. Per dirti, noi magari non li notiamo nemmeno quando entriamo in acqua al mare, no? Non li notiamo nemmeno i pesci lì. Però questa rete li prendeva, altro che, per dirti, ci sono anche lì, sotto in riva, ci sono i pesci. Lo credo. Quello che... perché io non ci andavo mai, a me me l'hanno insegnato quel calamento a farlo, capitolai, perché io non c'ero mai andato a galleggiante, andavo sempre a fondo, col piombo scorrevole, pescavo anche così, però ci vuole scacottoso, invece io sono andato con i bigattini e a giubicato, a villa. Ok, beh certo, va bene, no, io la verità non ci sono andato a pescare e non sapevo nemmeno da quale parte iniziare, tra l'altro, che poi non so nemmeno se potrei appassionarmi anche alla pesca, boh, non lo so, sinceramente non lo so, non l'ho mai fatto e dunque non posso valutare nemmeno le mie, diciamo così, valenze in fatto di pesca, sicuramente è zero, ma chi non ha mai beccato, dunque cosa vuoi che possa saper fare? Assolutamente no. Vabbè, dai, vediamo se sono rientrati gli altri, Antonello, Claudio, ci sei? Io sono qua, sto cercando una foto, ma mamma mia, tra due smartphone, 2 centinaia di foto è dura. Beh, perché non te li scarichi poi tutte le cose che hai? Perché cosa fai? Ti riempi il telefono di video, di fotografie, di cose, di messaggi? No, io li scarico sempre. E ogni tanto, però sai, mi piace averli tutti qua, ogni tanto li cerco, me li riguardo. Neia, vediamo se la trovo, dai. Claudio forse è ancora un po' suonato. D'altronde quando mi sveglio io sono tutto suonato, mi di sera. Quando dormo il pomeriggio sono tutto suonato. Ehi, vabbè, certo, ma poi alle sera non vinci, dunque già, ormai già si sveglio, non è un problema. Sì. No, anch'io quelli che mi interessano me li tengo, certe cose che mi interessano me le tengo, certo. Ma certe cose. Ci guardo di vecchia. Le cose varie, ma le varie le cancello, perché cosa. Se no mi esaurisco i giga e così. E poi non ci sarà più spazio nel telefono. Mi ha detto suonando di Veggani. E chi te l'ha detto? Claudio, me l'ha detto sopra, suonando di Veggani. A posto siamo. Eccomi qua, stavo detto chiedendo la stampante, suonato, ti vedano. Pausa pensi, io non dormo, mi hai capito? Mi stavo solo riposando. E niente, adesso ho chiuso tutto, ha finito di fare il suo lavoro. Ecco qua, occhiali sulla scrivania e appoggio. Otto. Natalino, oi. Adesso ti mando due foto. Vai a foto ci mandando, sempre mandando foto ci. Oi, Valerio di Alghi. Sapete cosa fa Valerio? Va a capocaccia, no? Lui c'ha un posteggio praticamente quasi suo. Ogni volta che ci sono i camper, lui si mette davanti a darle fastidio, quelli si stufano, se ne vanno e lui si parcheggia, capite? E c'è Marumacco. Così è. Oh yeah. E l'Inter, non l'hai visto l'Inter? Ah, al 93esimo ha segnato. Al 93esimo ha segnato l'Ambrosio. Fino era 0-0 in casa, mi pure l'Inter. No. L'Inter e il Milan per me sono uguali all'anno scorso. Vabbè, quando alla fine hanno 15 punti già li lasciamo. Il problema è di so. Senti, forse è Napoli. Se il Napoli si continua così, ci dà fino alla torcia, altro che... Vabbè, Napoli lo sapevamo che anche l'anno scorso l'ha dimostrato. Anche l'anno scorso. Però ha levato un sacco la brutto questi cinesi, non so cosa dove anni fa. È arrivato le squadre, veramente è arrivato l'anno passato, uguale, precisa identica. In casa col Genoa al 93esimo si può segnare. A 3 minuti da recupero, ma si può segnare. Una squadra che ha preso un capitale che. Dove sarà? Guarda, sai cos'è? I cinesi, i tifosi dell'Inter e del Milan sono convinti che loro siamo venuti qua per pura passione per il calcio. Quelli hanno fatto un investimento, pensano alle loro finanze, di una futura storia della squadra. Figurati, lui stanno cercando di realizzare un po' di milioni. No, non gliene frega niente più di tanto dello sport. Comunque, sono contento, sia per il Milan che per l'Inter, che non stiano andando poi così egregiamente, anche se l'Inter sinceramente è ancora lì. L'Inter c'è, rispetto al Milan c'è, è terza da sola, è il Milan che ha bucato dalla Sampdoria a Genova. Non gli compreso cosa pensate di fare, ma sarà. Comunque, io della Juve di ieri sono contentissimo, quella è la Juve che piace a me da sportivo e da juventino, perché è una Juve aggressiva, una Juve che porta palla, una Juve che sta molto attenta e tutto. Quella è la Juve che piace a me. Speriamo che l'abbiamo capito che debbano giocare così, se no forse anche i suoi rimbiati. Avanti, Valerio. No, devo mandare una foto di un'antenna a Natalino. Sempre con Marco ce l'avete, sempre con Marco, Sono il capro espiatorio. Tu sei un trascinatore. Aspetta, mi piaceva l'altro termine. Istigatore. Io sono detto Giulio, istigatore, tu sei un istigatore. Sì, ma ora sei diventato assannato, dunque quello ormai è cancellata quella frase, Marco. No, è sempre un istigatore, anche orecchione. Addirittura, questa è una cosa che non mi risuona molto, perché non ero a corrente. Perché tu stai assente, capito? Però lui già lo sa che è così. Un pipistrello che si taglia le ali, hai capito? Si è tagliato le ali per volare basso, tu immaginati. Ah, così è. Vabbè, dai, nel frattempo salutiamo Valerio. Ciao Valerio, mi assenti? Mi assenti? O mi assento io? Ciao Valerio, mi senti, dai. Carino. Sì, solamente con la 7 whisky sto uscendo, per cui va bene così. Poi se mi senti bene non è il caso di aumentare, anzi non ne aumentiamo proprio. Avanti Marco. Via. Natalino, quella è la Oxin 1510, quella che consigliavo io. Poi c'è più sottile, ma è sottile sottile, B. Solo che, dai, non è degna, questa è già migliore, dai. Ho mandato una foto di una antenna vincolare per lo scanner, e non solo. Io chi è entrato non ho capito, da lontano chi è entrato? Valerio? Ciao Valerio, mi ascolti? Sto anche parlato prima, ho chiesto chi è entrato, Alzheimer galoppante. Ebbene Natalì, come ti sembra? Abbastanza discreta? Troppo alta mi sembra. Sì, non sono nemmeno, saranno 47-48 centimetri. Poi se la vedi davvero, boh, non lo so. Più piccola, c'è qualcosa di Diamond, però non garantisco per le stazionarie là sopra, capito, su quella banda. O per meglio dire, declino ogni responsabilità. E beh, giusto che sia così. Guarda, io mi ricordo, aspetta, si chiamava Diamond NR77 ed è tipo 35 centimetri, solo che c'è una spiralina tipo ICC, no? Guarda, se trovo la foto te la mando, perché adesso così su dei piedi non ce l'ho presente. Natalino, andiamo avanti. Quella che abbiamo usato noi, quella corta, come abbiamo, siamo andati a scavapiccarla, e poi abbiamo messo quella lunga tua, ti ricordi? Non ce l'ho io con l'antenna, la NR770. È una corta, ma bisogna vedere se funziona lì. Non funziona, Natalino, non funziona, se non l'avrei messa io. Non funziona, è troppo, capito, 4.30, 4.40, non funziona, l'ho già provata io, anche l'altra, la B10M della Comet, lo stesso, 4.30, 4.40, non funziona, è troppo alta quella frequenza, quella risuona molto, molto bene nell'EPD, allora sì, ma in PMR ci vuole l'antenna sua, non c'è niente da fare. Visto Natalì, cosa ho detto? A meno che non vedo altre soluzioni, purtroppo queste sono valide perché hanno il centro banda a 4.40, capito? Sono 4.30, 4.50, se hanno a 4.40 sono ideali. Ma tu lo sai quanto perdo io se quando, allora mi sento di più col portatile, l'antenna in gomma, che praticamente agio mai con l'antenna a 50 metri d'altezza, quella grande, la 510 o Natalì, perché è fuori banda, non fa. Ehi, lo so. Se no avrei, c'ho anche l'altra, io ho capito, la 50 avrei messo quella giusto per ascoltare, ma non me la fotti nulla, perché intanto sono antenne che servono esclusivamente in banda amatoriale, lì a 430, 440, poi il PMR ci vuole l'antenna sua, c'è niente da fare. Va bene, riprendi o... Antonello non c'è più. È in coma etilico. Addirittura, ne ho ragione. Sono le 6:10, fa male. Io stamattina mi sono fermato a Baligi, c'è un mal di testa. Mamma mia, stavano vendemmiando, tutti i gorsi, lui in zona, vedi. Mi hanno fatto assaggiare, ma oggi un mezzo bicchierino, cos'è il suo vino dolce, moscato, mamma mia, c'ho mal di testa da stamattina, ancora mi è passato. Capita, vabbè, lo smari non è dovuto nemmeno a questo mezzo bicchierino, guardate che è indisposto e allora si è venuto per quello, capita. Raramente a me mi viene lo stesso mal di testa, ma quando mi viene ti posso assicurare che mi devo prendere per forza una pastiglia, perché se no mi dura una settimana e invece con una pastiglia 10 minuti e un quarto d'ora mi passa subito. Raramente mi viene mal di testa, grazie. Però senza fisico umano si comporta in una maniera alle volte molto strana. E prendi tra la pastiglia, così ti passa, che te lo fa fare a tenerti un mal di testa? Io non è che una pastiglia ti fa niente, no? Ti prendi un moment, tac, e quella lì 10 minuti o 4 ore non ne hai più di mal di testa, e sei tranquillo. Ce l'ho visto un moment, come un biglio, sì. Ah, i bicchierini da gojo, piccoli, uno scatto, evidentemente è troppo dolce, una pizza che non si abbia. Io non avevo così fuori pasto, capito? Era anche, era stato mezzogiorno, 11:30, non mi sbiglio qui. Perché se non è quello è proprio, allora sono gli occhiali, sono tutta la mattina con gli occhiali facendo letture, casini, vale bene, Nacho. Riprendi, riprendi tu, vai, fai girare tu, già sei in zona alta, già ti sentono tutti, che ora prendiamo una pastiglia. Ok, vale, sì, in effetti così. No, io quando ripeto, quando qualche volta mi viene mal di testa una pastiglia, mi rilasso 10 minuti, un quarto d'ora così, magari mi butto sul letto, chiudo gli occhi, va veramente un quarto d'ora massimo mi, e mi passa subito il mal di testa. Sono situazioni che sono stupidaggini, però sono situazioni spiacevoli, perché uno quando ha mal di testa, ragazzi, si sta male veramente, già lo credo, già lo capisco Claudio. Vediamo un po' se c'è ancora Natalino. Natalino, scusate, mi assento, Giulio, vado a fare quella telefonata. Ok, vabbè. Natalino, ci sei? Natalino lo riprende. Antonello Pomponio, ci sei? Boh, tutti a bere la birra sono andati, va lì. Non c'è più nessuno, no? Siamo rimasti soli. Soli tu ed io. Allora, siamo rimasti soli al momento. Marco deve telefonare. Claudio sta prendendo la pastiglia, Natalino è sparito, è caduto dalla sedia, Antonello idem, per cui siamo rimasti soli al momento, dai, aspettiamo quando rientrano, così poi possiamo chiacchierare. E allora, tu di quale squadra sei tifoso? Ah, di che sei tifoso? Ho chiesto, di quale squadra sei tifoso? Ah, ok, vabbè, un pensiero almeno, dai, ho capito. Tu sei disinteressato al calcio. Vabbè. No, io già le seguo sempre, io non me ne perdo mai una. Non me ne perdo mai una, anzi sono molto. Anche la domenica mattina, adesso fra un po' inizia anche il campionato dei dilettanti. E dunque anche la domenica mattina sarò sicuramente in giro per i campi di tutta la zona di Sassari. Per seguire le varie squadre. Inizia il 1° ottobre il campionato minore, e poi la sera naturalmente ci sono i campionati di Serie A, Serie B e così via, per cui va bene. Vabbè, non sei tifoso, allora non ne parliamo di calcio, parliamo di cosa parliamo, dimmelo tu. D'altronde no, io non è che sono, lo seguo, ma non sono uno scalmanato come certe persone, no? Io tifo sempre, ho sempre tifato la Juve, vado sempre, tutta la famiglia a casa, sempre tutti quanti tifosi della Juve, tutti, i miei fratelli, i miei cognati, tutti indistintamente. Siamo bene in sintonia tutti quanti. E cosa dire? Però quando segna per dire la Juve non faccio come certe persone che sono scalmanate, per carità. Mi ricordo qualche annetto fa sono andato in un bar a vedere la partita della Juve. C'era questo, ha segnato la Juve, era Juventus Inter, ha segnato la Juve, si alza questo. E al centro di questo locale c'era una colonna di cemento armato, quello che sostiene il palazzo praticamente. Ha dato una manata a questa colonna, io penso che quello si abbia fratturato come minimo la mano. Proprio la pazza, proprio dal giorno mai più mi sono permesso di andare a vedere una partita al bar, così. Io ero andato per curiosità, ho pensato, ma siamo in tanti lì e forse ci divertiamo. Invece avrei fatto meglio a rimanere a casa, intanto io a casa ce l'ho l'abbonamento da sempre, per cui avrei fatto meglio a rimanere a casa. Per vedere certi spettacoli, guarda, no, assolutamente. Io rimango impassibile così. Hai subito un gol? Vabbè, pazienza, prenditelo. Hai segnato? Sono contento per me e per te, però allo stesso tempo non mi esalto per niente, guarda. Sì, ma divertirsi così è anche accettabile, ci mancherebbe altro. Ma se uno va a prendere con una manata, ma guarda, ti giuro, quello lì come minimo si è fratturato la mano, al cemento armato, alla colonna che c'era, il pilastro di questo, che c'era in questo bar, ha dato questa manata, ha detto, questo è pazzo, io penso, questo non è possibile, che uno si possa far male solo perché ha visto che la Juve ha fatto un gol, boh, cose dell'altro mondo, guarda, proprio, però no, non fa per me, questi ambienti non fanno per me, io sono un tipo tranquillo, per cui no, mi piace vivere in una certa maniera, senza stammanarmi mai, assolutamente no, poi, allora non sarebbe più sport, tanto più che io ne ho praticato di sport almeno 15 anni, per cui so cosa significa essere sportivi. Va bene, riprendi i vari. Ok. Intanto nel frattempo chiamo Marco. Marco, sei rientrato? Sì, non ti parlare della dremma, mi. Nel momento, è chiaro. Certo, all'anima. Ma intanto non lo so cosa vuol dire la dremma, quindi. Prendere tromaccia, prendere tromaccia. Magari ti fare la dremma. Però, già sta attento. Già sta attento. Certo, ci mancherebbe. Sì, sì, sì, il cavo c'era, USB che non andava bene. Non ho sbagliato io a prendere a sorso quello vecchio che non funzionava. Non ne avevo uno nuovo io e ho fatto tutto. Non speriamo che passi un cacchio di mal di testa. Vediamo un po'. Ma... Va bene, riprendi o Natali, quindi porta Giulio a pescare. È vero. Da quello puoi stare, dalla macchina non posso pescare, vicino a casa sua, sai quanto si pesca in fretta, è abbondante anche, più soldi metti più abbondante peschi, è nata lì. Certo, se cominci a cavare di gentuello, vedrai che pesci. Già lo credo, già. Oh, già. Vabbè, già. Anche quella è una cosa bella, andare a pescare, che ha passione, va bene così. Ma te devi rilassare un attimino, Claus, magari chiudi gli occhi, mi ti appoggi alla poltrona così, ti abbassi un po' il volume della radio e chiudi gli occhi, in un quarto d'ora ti passa la mal di testa, ti hai preso la pastiglia. Ehi, se la luce mi darà un'odora. No, già piano piano già sta abbassando, ho preso un po' di cose anche di citrosolina. Insomma, io mi avevo preso lo stomaco. Stamattina ero anche un po' leggero, è la verità. Sono uscito con la maglietta leggera, alle 6:30, è vera che tagliata abbastanza pesante. Quando sono arrivato a Baresi, ho iniziato a sentire un po' una fitta dietro il collo. Me l'ho portata per tutta la mattina. Poi da dietro il collo è passata davanti, sotto gli occhi. In quel contesto lì mi sono fermato a assaggiare questo moscato, non era vermentino, ma era moscato proprio di Baresi, capito, stavano vendemmiando. Ma come mi è già andato subito in pressa, proprio l'ho assaggiato, un goccettino, un mezzo bicchierino così. E poi mi sono seduto in macchina e ho visto che durante il tragitto mi stava aumentando questo mal di testa. Adesso non so se è il freddo, se è questo bicchierino che ho bevuto, comunque. Mi sono riposato dopo pranzo, ma non mi è passato. Adesso vediamo se passa. Infatti stavo guardando uno straccio di partita del Milan e poi all'ora di pranzo, quando sono arrivato a casa era l'una e qualcosa, una e mezza forse. Capito? E poi niente, mi sono buttato a vedere gli altri battiti, però mi sono addormentato. Vabbè, riprendi Marco. È al telefono, Marco, è andato a telefonare. Sì, beh certo, e allora è spiegato tutto. Sei uscito fresco e c'era fresco. E ti ha fregato la cervicale da putito là. E te la sei portata avanti per tutta la mattinata. È quello che ti ha fregato allora. Perché sì, così fresco, ce lo credo. A quell'ora c'è freddo e magari avevi il collo un po' scoperto e ti ha putito. È quello senz'altro. Va bene, sta andando al discorso Juve o Club. Comunque, visto a quanto sembra, Matuidi è stato un buon acquisto, perché funziona bene in coppia con Pjanic. Sembra sembra che incominciano a sistemare il centrocampo, a quanto sembra. Poi come rincanto abbiamo anche Betancourt in caso di passare a 3, anziché, capito? Anziché al 4-2-3-1, a 4-3-3 o 4-3-2-1, potrebbe anche essere così. Betancourt è un ragazzo molto molto in gamba, infatti anche ieri quando poi l'ha messo si impegna in una maniera impressionante. È giovane, ha 19 anni, quello corre o classe. A me piace molto la Vettosa. Poco cammina, se no non scatta il Sugar. Ha visto cosa il gol, anche Quadrado ha fatto una bella partita ieri. No, per me lo può lasciare pure in panchina a Higuain. Con la squadra di ieri, guarda, per me Higuain può rimanere pure in panchina. Ah beh sì, se non si riprende, ma deve essere una cosa mentale però, perché lui ci sta soffrendo perché non è riuscito a segnare più di tanto quest'anno, per cui a meno che, ma non vorrei dirlo perché l'anno scorso sono andati bene, che soffra la presenza di Dybala, ma non credo però, perché l'anno scorso avevano e poi sono anche molto amici, per cui non dovrebbe esserci quel problema lì. Comunque Dybala già 5 partite, 5-6, la partita 12 gol, 10 più 2 quest'anno, e non è poco. Ah, amico, è un'azione che sembrava che volesse segnare lui, Dybala ne ha pigliato il pallone da Rubini. E anche a Pjanić mi ha pigliato il pallone da Rubini. No, non ce n'è per nessuno. Se gioca così in forma, però deve giocare anche, non solo a Torino, non solo in Serie A, deve giocare anche in Champions così, perché questa Juve è davvero molto, molto, molto malata in Champions. Sembra che abbiano paura chissà di che cosa, non lo so, vabbè. Vediamo adesso mercoledì contro vediamo cosa va, perché se lì non fanno punti per me non in cerchio non ci vanno quest'anno, sono furi, non so. Vabbè, l'hai trovato questo posteggio e oramai ti hai fatto il buco lì, già va bene. Marco è rientrato, sì, se non riprendete un altro lì. Natalie, sentite cosa ti ha detto Valerio, ma me lo porti a pescare. Bobo, Natalie, dalla sedia sei caduto. vabbè. Mi ha mandato una fotografia con un piatto pieno di saraghi poco fa, qua. Una vecchia pescata che ha fatto la settimana scorsa, mi sembra che mi ha detto. Bene, vabbè, meglio così. Già è bello anche quello, se uno è appassionato di pesca, guarda, è già bello fare quello, si distrae e si diverte anche nel silenzio e nella tranquillità. Uno che va a pescare è tranquillo e dunque si rilassa qua. E vabbè, poi Natalio c'è pratico, già sa fare. Sì, l'ho mandato anche a me, è bello, i bei saraghi, belli ticci, già si può fare, ma per scattare così già va bene, non manco poi qualche cosa, ma va bene, mi stai passando un pochino, faccio un po' di dolore, è freddo allora, è freddo, infatti c'è la finestra chiusa e sono con la... la casacca del pigiama, perché speriamo non abbia le influenze, c'è un sacco di cose da fare, no, da fare Baromi, in 30 chiudono, devo chiudere tutto il coso della stagione, figura del due, anche un po' di cose da fare, però sono dolore, mi fa male il collo, la schiena, i polsi mi fanno male, parliero, cappelli che... La cervicale ti ha preso, da fottito la cervicale, se ti fa male anche la schiena, tutto dipende da quello, dal collo, la testa, la schiena, tutto dalla cervicale. Perciò ti compiti bene stavolta, così a domani sarai in piena forma. E a proposito, stasera, stavolta riguardo anche Fiorentina-Atalanta, voglio vedere qual è la salute dell'Atalanta, tanto per riservarci per il prossimo sabato. L'Olimpia Corso è un'altra squadra che non ti è venuta in mente, è la squadra che incontrerà il mercoledì la Juve, è l'Olimpia Corso. Ah, è l'Olimpia Corso, sì, l'Olimpia Corso. È una bella squadretta quella, io l'ho vista giocare, è una bella squadretta. Se non vince, se non fa punti, se non fa i 3 punti rischia la Juve, rischia molto. Deve vincere assolutamente se vuole proseguire la camminata verso la qualificazione. Caspita, se l'ho fregata. Vabbè, comunque. Vediamo se è diventato Natalino. Natalino. Sì, continuate che sto facendo cose. E gli ha dato di Giammemmo e tu sparisci, vabbè, dai. Avanti Valerio. Ma non fischia in macchina, va bene, ce l'avevo io. No, quella è proprio per macchina, capito? Visto c'è la sua basettina, la Reoli. È proprio fatta apposta per la macchina, l'avevo presa proprio per la macchina quando c'avevo la Lan 48 modificato. L'avevo preso per la macchina. Infatti l'avevo usata un paio di volte, poi l'avevo tolta la radio. Ed era sempre dentro l'armadio, per cui mi sono ricordato. Almeno è piccolina, non ingombrante, vabbè. Sì, cattoni molto alti, cattoni alti, ma almeno senti bene la modulazione. Vai giù. Ok. Già fa piacere avere un altro parlante. Bello, ma avrei detto che altri posti in Mubrega. Vabbè, ho visto un gol volo adesso di Mubrega, lui l'ha fatto in bar. E dunque siamo vicini a Dimbala. Il Mubbio è forte, quest'anno sta facendo una grande stagione, veramente bello. Vabbè, dai. Sì, beh, in effetti avere un altoparlante che ti dia uno speaker chiaro è molto bello in macchina, perché alle volte, soprattutto in mezzo al traffico, eccetera, se rimane cupo oppure sporco di radio, non è che va molto bene, mentre invece quando è chiara fa piacere. Fa piacere, così va lì, vai. Da Reve arrivi Santiago 5 e oscillante a 6 quando moduli. Sì, perfetto, alla grande. Aspettate, do la pappa Pippo che si è svegliato, un secondo, arrivo subito. Ok, va bene, no, qui da me, considera che io sono in basso, io sono alle punti per l'esattezza, perciò rispetto a Sassari sono roba di 50-60 metri, anche di più forse, ho 95 metri sono, a proposito, ho visto una volta col GPS, 95 metri, dove sono io, sono 95 metri rispetto al livello di Sassari, per cui ti puoi immaginare, quello è anche uno dei motivi, quando si è ad Alghero che mi senti basso, è uno dei motivi principali, diciamo, perché sono in una vallata rispetto a Sassari. Dai, sono alle punte, capito? Guardi. No, a oggi lo abita Francesco, che poi non ho più sentito. Francesco a oggi lo abita, ma non l'ho più sentito, sono mesi che non l'ho più sentito. No, io abito qui alle punte, perciò sono tra le punte, tra Sassari e San Giovanni praticamente, dai. Perciò dove sono io è basso, perché si scende, per arrivare qua si scende un po', poi si comincia a salire quando si va verso Tava, però io sono lì in basso, però diciamo che già riesco a farmi sentire un po' dappertutto. Sono per Alghero che sono in una posizione un pochino critica, anche se arrivo ugualmente ma basso, anche perché utilizzo pochissima potenza, io in questo momento sono, aspetta, 7 watt, in questo momento sono appena 7 watt, perciò si può immaginare, va bene così, diciamo che è una bella borgata, dai, abbastanza popolata, con tutti i servizi che servono per la vita di ogni giorno, dagli alimentari, ai supermercati, alla farmacia, alla chiesa, insomma c'è tutto, qualsiasi cosa c'è, non ci sono problemi. Perciò poi sono un tiro di schioppo anche dagli altri negozi tipo Auchan, che attraverso la bretella che c'è lì, che porta a Predagneta, è solo un chilometro, per cui va, abbiamo tutto a portata di mano, o quasi. No, no, non ci sono problemi, guarda. Qui è abbastanza popolato, perché tutta la borgata qui, considerando anche che sono io, Villa Gorizia, Truncureale, insomma queste piccole località che ci sono intorno ai punti, si considera che ci siano 20.000 abitanti, praticamente quasi quanto ce ne sono a Porto Torres. Un dipolo autocostruito, installato in verticale nel terrazzo, a un metro dal pavimento di casa praticamente, come altezza, è racchiuso tra quattro mura del terrazzino, qui sul Matada, no? C'è un terrazzo e dunque è installato lì, ma è basso. Rispetto a prima avevo la mantova a turbo, e c'ero sempre la mantova a turbo, però non l'ho tirata giù, l'ho messa così, sdraiata nel poggiolo, per cui non l'ho più piazzata, anche se dovrei di nuovo rimontarla, ma non lo so se lo faccio. Devo dire anche una cosa, che rispetto alla mantova a turbo sono almeno 5-6 metri più in basso con questo dipolo rispetto a dove era la mantova, perché la mantova era nella parte più alta della casa, mentre invece questo dipolo è proprio nella parte più bassa, cioè considerando la pendenza del tetto. Mi spiego? E ci ho pensato di mettere l'antenna sul campanile della chiesa, qua in zona, il campanile già è alto, per cui solo che ci vogliono pochi metri, un 200 metri di cavo ci vuole. E poi non so se Don Pudi, che come si chiama col prete, se me lo permette anche di installare l'antenna sul campanile. No, ma se voglio io già arrivo più forte, basta che dia una giratina di manopola qua, già potrei anche superare abbondantemente il Santiago 4 e anche il 5 e anche il 6 o va lì. Solo che non lo faccio io, solo quello, il motivo è quello. Tu pensa che, adesso in questo momento sono 4 watt appena, aspetta che aumento appena, ecco, adesso ne ho messo 10, adesso ne ho messo 10 di watt, adesso dovrebbe essere un tantino migliore la situazione. Anche quello, ma comunque non ho mai avuto, almeno non ho mai avuto nessun problema. No, voglio dire, non lo faccio io proprio per una questione di principio, non è il caso di andare a spingere troppo, quando ti sentono basta, non ho quelle ambizioni, non me ne frega niente a me di arrivare con un Santiago alto, è interessante che mi sentano del radio, poi per il resto non ho nessuna ambizione, mi va bene così, e dunque rimango così, non supero mai questo vantaggio. Va bene così. E chi me lo fa fare a sfruttare troppo la radio? No, va bene così, va lì. Sì, ma c'è Franco che ti sta disturbando, però a proposito di disturbare, Franco Dalghero è sotto di te. E a pigliare in goma le vostre mani. Mi è sembrato Franco sotto di te. Mi è sembrato, e non vorrei sbagliare. Vabbè, se vuole entrare già siamo qua. Non c'è problema. Vai o Giulio, ma non c'è più nessuno. Ma ci dovrebbe essere Natalino, non so cosa stia combinando. Marco è andato a fare una telefonata e si è perso tra i fili della TIM, credo, o della Telecom, non lo so. Marco, ci sei? Boh, svanito. Natalino! Oi, sono qui. Io canta, ti ho detto da poc'anzi, canta come ti piace, già va bene lo stesso. No, non ridere, canta e basta, canta che ti passa la malinconia. Non ci vediamo, non c'è. Attento, bulldozer, al mare, al mare, sì. Stava preparando il fuoco per arrostire, lui la domenica sta sempre arrostendo. No, si è rimasto a Uruguay, c'è il giardino lì. Era un po' fa dice mai, sempre ascoltando, non entra mai. Beh, io non ci avrei sesso, non sarebbe entrato. Va bene, Natalie, aiuto, raccontaci. E cosa ti devo raccontare? Raccontare che cosa? Tu non tenere così bassa quella radio, qua io c'ho il minimo, però 10 watt. 10 watt, mi ero qualche settimana che non lo stavo usando il 440, stavo usando il baracchino, però adesso lo sto usando a 10 watt, non lo mando sotto 10 watt, capito? Se no non lavora bene, troppo basso a 4 watt, mettilo a 10 watt, non, 10 watt sono i watt che dà un baracchino, io ce l'avevo 48, ne da 8. Il DAC ne da 12, quindi no, 10 watt va bene, proprio a watt metterò suo alla T230, sono 10 watt importanti, più sotto non lo mando, capito? Ok, sì, l'ho regolato a 10, l'ho regolato al suo smitter, non so se è reale quel vantaggio lì, ma diciamo che l'ho regolato a 10, suppongo che vada bene, ma mi ha detto che mi sente anche discretamente Valerio lì a Capocaccia o dove, per cui, vabbè, cosa tanto... No, sai, e poi col di pollo non voglio esagerare, Ocla, anche se ho visto che stazionarie non ce ne sono, ma benissimo, su tutta la gamma, su tutta la gamma della 27 non ci sono stazionarie, e va benissimo. E l'ho provato con tre, ne ho tre di rosmetri, e tutti e tre mi hanno dato esito buono, per cui non già sono tranquillo in un certo senso, volendo potrei anche aumentare, ma avete considerato che appunto sono con questo di polo, mi rimango così, bassa potenza e basso eventualmente stazionaria, no? Lo sai benissimo, non c'è bisogno che te lo spiego. Va bene così, vai lì. Natalie, siamo qua. Ah sì, ti ho già detto Valerio. Non lo sento Valerio. Grazie Valerio, non lo sto più sentendo, boh, non capisco perché. Minchia, non ti sentono Valerio. Non ti sento se non pompi. Con l'antenna lì è già troppo che siamo riusciti a piazzarla, Valerio. Ho fatto un lavoraccio, capito? Adesso l'unica cosa sarebbe da fare tirarla su un altro elemento che superasse, perché è molto bassa, capito? E metterla ai tiranti, basta. Però più di quello non si poteva fare, troppo pesante, troppo... Per poter fare quel lavoro voleva imbragata, capito? E poi ci voleva uno sopra il tetto, però sopra il tetto non avevamo accesso, quindi abbiamo fatto tutto la terra, vale? Abbiamo fatto tutto la terra, quindi va bene, ma guarda che Natalino esce molto bene, se è peccato che c'ha questi rompimenti di scatole, se no qua il segnale più alto è quello suo quando usa la potenza giusta, capito? Adesso è 9,5, 9,10, se no quando usa la potenza sua qua è 9,30, 35. È buono segnale, però evidentemente per dove sei tu lui è coperto, per quello non ti sente, capito mio? Non lo so, avanti Giulio. Ok, purtroppo ha quel problema lì Natalino, lo so, succede, ui. Succede anche quello, ma speriamo che riesca prima o poi a risolverlo con quella persona che è un pochino, che ha i paraocchi e non vuole sentire niente, non vuole sentire. Quando si incontrano certe persone, per carità, meglio niente, guarda. Purtroppo è stato sfortunato che si ritrova con questo vicinato e in quella maniera. Pazienza. Risolvi Natalino in qualche modo. Sì, vengo subito. Mi stanno chiamando laggiù. Deve essere che è arrivato mio genio o mio fratello, non lo so. scendo giù e vediamo un po', risalgo dopo qua. Dai, riprendete voi, se tenete mi sono stati al momento, dai, che mi hanno chiamato e devo scendere giù in tabernetta. Ok, riprendi qua. Salutoni a tutti e due, intanto è anche a Natalino, tutti e tre, anzi. A dopo, dai. E è giù, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Vai Natalino. E ciao giù, ci sentiamo dopo, va. Vale plus. No, è vale. Marco c'è pesce. E Marco sarà mangiando, adesso farà pranzando, capito? Sicuramente sì, perché qua il tuo segnale è sempre uguale, 9-10. Quindi, se 9 più 10 qua metti arrivando la capocaccia. Ma sicuramente, non so, è un po' coperto per Alghero lì, antenne molto bassa, capito? C'è il fianco di Monte Oro, Monte Alvaro, sicuramente per quello che non ti sente, perché da casa tua ti sente, capito mi hai? Marco, ci sei? Condor? Non ne ha più cazzette, le ha consumate tutte con Falcone. È morto? No, non è morto, no? Non è morto, già c'è sempre. La carità, mamma mia, se vuoi dove manca, per carità, adesso c'ha spazio, se dovesse entrare adesso guai, adesso già ne ha spazio a sbizzarrirsi, sono tutti liberi i canali, ma prima, mamma mia, la rottura di palle che era, non veniva bene a dirlo, faccia verde, io con Marco andava d'accordo, Marco ci giocava, Marco ci giocava. No, io non ho mai avuto problemi. Io sollevavo la voce due minuti e mi diceva non ti adirare, Spalvier, non ce l'ho con te, ce l'ho con Marcolino. Con Marcolino Condo. Allora, no, io sollevavo la voce, minacciavo, mi vengo lì, poi senta con l'antenna te la metto a cravatta, adesso mi hai scocciato. E non fare passaggi lunghi, che mi stai splatterando, lo diceva. No, no, stavo parlando con Marcolino Condo. Io non ci sarebbe neanche più gusto, capito? Già lo vedi, siamo in treno, sappiamo cosa dire. Dall'altra parte c'è il treno Mattes, c'è più nessuno, no? Oramai è tutto lo sfascio. Vabbè, due chiacchiere, le facciamo sempre. 18:41 c'ho io, non so, non ne ho guardato meteo, ne ho guardato, guarda, lo guardo in diretta, vediamo cosa dice, perché non so se di domani. Allora, domani, oggi c'è sole, domani è soleggiato con qualche nuvola, martedì pioggia, sono i casini io che lavoro nel settore, c'ho livelli un bel bassi, c'ho livelli un bel bassi e mi serve acqua per poter anche defluire un po' la parte del processo fangoso. Speriamo bene, se vuoi dica. Oh, una cosa è certa, mi vale, che quando inizia a piovere fa danno, sono sicuro che fa danno, perché non è quella pioggia normale, leggera, tranquilla, è sicuramente qualcosa di grosso, almeno le prime piogge, no? In fase di assestamento, anche sul cambiamento meteorologico, eccetera. Quindi speriamo di no, perché ci vorrebbe sì l'acqua, però iniziare calma, piano piano, capito, senza quei grandi temporali che possono danneggiare anche, a me mi danneggiano perché non sono ancora preparato a ricevere grandi flussi d'acqua, capito, e quindi perché i vasconi sono ancora pieni di fango e quindi di schiuma eccetera dal caldo, perciò se piove lentamente scioglie tranquillamente, il processo viene un po' più lento, ma se piove così tracimano, perché cioè, non ce la fanno a tracinare dall'ossidazione ai sedimentatori, e quindi, capito? Quindi avrò difficoltà anch'io, speriamo di no. Che piova, ma piova bene. Non lo so, ti ripeto, ribadisco che se piove deve piovere bene, se piove la pioggia malata, nel senso forte, sai, i temporali a scariche magari di un quarto d'ora, ne butta Gesù Cristo e poi dopo 5 minuti esce il sole, quella fa danno, quella fa danno. No, vediamo. Comunque, martedì, così dice il meteo, martedì c'è pioggia a Sassari, domani è un po' peggio di oggi, dai, più nuvoloso rispetto a oggi, martedì pioggia, vediamo, precipitazioni sparse, e ci sono anche le bande azzurre della cosa lì. Pioggia, nove. Che prendi Natalino? Vedi un po' se è rientrato Marco, va. Un attimo, sto telefonando, sono al telefono. Sì, adesso dici anche a chi stai telefonando, sì, al telefono, va bene. Marco Condo, sei arrivato? Mi sono approfittato del Magnendi, Mi ho approfittato del telefono e nel frattempo ci ha mangiato la cornetta. E magari dal telefono era pronta la pappattoia, come la chiama lui, e quindi sta pranzando, capite? Ma io qui c'è stato un piatto di ravioli, oggi sono manco cena stanotte, lui ha fatto ravioli a pranzo con due pasticcini, c'erano stanotte manco cena. No, stanotte c'è la pizza. Stanotte pizza. No, ma non pizza, no, fatta in casa. Fatta in casa la fa mia figlia. È buonissima, capito? E quindi no, non ci rinuncio a una bella fetta di pizza. Però non mangio altro, è una frutta. No, sono stanco, questi giorni. Poi domani sono anche solo, ho mille cose da fare, ho da campionarmi tutti gli impianti, portarli in laboratorio. Mamma mia, rottura di palle, non arriva, non passano più questi due anni. Non riuscì, no, vale. Cioè, ce n'è di gente che lavora nel mio, con me, capito? Però purtroppo le cose da fare sono tante. E l'incarico che ho io è un incarico molto molto delicato. Se sbagli paghi, e quindi bisogna stare occhi aperti e fare le cose con la testa e non con i piedi. Infatti io ci vado sempre molto molto sereno, lavoro, problemi devi lasciare fuori, perché se ti distrai è un casino, capito? Cosa vale adesso? Beh, il lavoro è uguale, è che facevo più ore perché dovevo dare un supporto in più. Capito? Praticamente io faccio sempre dalle 7 all'1.25, alle 13.25, però poi faccio lo stacco pranzo dalle 13.25 alle 2.10 e poi riprendevo a rifare un altro giro di controllo fino alle 4.30, alle 5, dipende, capito? Perché le portate erano molto alte e quindi è chiaro che devi tenere sotto controllo soprattutto i telecontrolli, tutte le strumentazioni che ci sono, le portate in arrivo e in uscita, e quindi è quello. Adesso chiaramente non ci sarà più il secondo passaggio così chiamato, e perciò alle 2 insomma sono a casa. Il mio lavoro è sempre quello, chilometri, sale e scende alla macchina, capito? Letture, calcoli e via, e tira a campare. Break, buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. No, ci avevo gente a casa, dai. a pranzo, quindi sono andati via adesso. E non potevo accendere prima, dai. Buonasera. Ho sentito che sei tu e Claudio, non so se ci sia altra gente, io vi saluto tutti cordialmente. Ho fatto poco ascolto, la verità. Avanti di nuovo e poi fai girare per Claudio. Non sai cos'è, che mi hanno cambiato i turni ed ero di sera, entravo alle 2, uscivo alle 9, 9 e un quarto, arrivavo a casa stanco, dai, non ce la facevo. Poi ho provato a accendere qualche volta quando tornavo da Porto Torres, ma non c'era nessuno, quindi mi accendevo la radio, dai. Adesso ho finito, per fortuna i miei colleghi sono entrati dalle ferie e la sostituzione è finita, adesso riprendo la mattina. No, va bene. Ogni tanto arriva qualche messaggio di qualche collega. Sono messaggi che ci mandiamo per l'inizio settimana. Ciao Gia, buonasera, ben ascoltato. Infatti mi hanno chiesto a me come mai non ti stavi più facendo sentire, sicuramente mi hanno cambiato i turni di lavoro come me, perché noi d'estate abbiamo dei turni un po' più diversi, là. E poi già torniamo alla normalità, vale? Come vedi anche Gianni adesso. Torna alla normalità, la sera già si fa sentire. Avanti già. No, è che c'era il mio collega della pescheria, il pescivendolo, che era in ferie, quindi io ero in pescheria, stavo sostituendo questo mio collega e non c'era nessun altro per andare in pescheria, quindi sono andato io. E poi hanno visto che ci sapevo fare e hanno continuato a farmi fare gli orari di sera. Ma adesso l'altro giorno sono andato e gli ho detto, ma cioè, sta diventando un vizio questa cosa degli orari di sera. No, adesso dalla prossima settimana cambio il turno, erano esigenze della ditta e adesso ti cambio il turno di nuovo. Bisogna sempre fare, capito? Però quando vedi che te la cavi, subito ne approfittano, come fanno sempre a tutte le parti. Anche da noi funziona così. Noi siamo 5 reperibili di zona, l'unica domenica vi seguo sempre un reperibile, chissà fa cosa, non capisco. Vabbè, comunque, non è quello il problema, l'importante sia la salute e poi ci sono delle luci. Va bene, vai, va lì. Sono reperibili quelli più bravi, quelli che lavorano veramente, quelli sono reperibili, capisci? Durante l'estate poca, anzi io non sono entrato per niente perché c'era troppo caldo e non faceva. Ciao Valerio, ti ho sentito, ciao Gianni, adesso ti ho sentito Valì. Spero che lo faccia. Allora ci entriamo tutti, dai, ci entriamo tutti, piano piano. Vabbè, dai, io inizio a avviarmi, il lineare me l'ho già acceso, sì. Sta andando e così mi fate compagnia fino ad Alghero, là. Valerio, ti ho sentito adesso, ciao Gianni. Ciao Natali, buonasera, dai. E allora, Piccadori. A te che abbasso, ma. Andando te a pescare. Sì. Ho abbassato perché disturbo. Io ne ho tolto una da 1,2 kg, Natali. Sono andato l'altra sera, che ero libero, c'avevo il riposo, dalle 8 alle 11 e mezza, ho beccato verso le 8 e mezza, ma mi hanno detto che c'è poca roba, dove andavo io, mi hanno detto io c'ero questo qui che c'era vicino a me, mi ha detto, sono andato per 3 sere e non ho preso nulla, cazzo si è venuto tutto ed è bilato un bel bestione, e vabbè bestione, tanto per mangiare, là, tanto già lo sai, me la mangiare azzurra, quindi va bene. Infatti già. Lo sai io, però non ne ho canne per andare in spiaggia, perché quelle quattro che avevo io sono sparite insieme alle 6 di mio nipote, 10 canne si hanno portato via, perché lui le aveva tutte pulite e messe in un cesto le canne, sia le mie e le sue, 10 canne sono spariti. E ho recuperato la cassetta dove c'avevo un po' da l'attrezzatura, però mi manca ancora quella per i calamari. Ah, e vabbè, quella lì basta prenderla, dai. Non ci vuole l'attrezzo, solo un piombino e cosa ci vuole? Un piombino, mezzo metro di lenza e poi al latte ci metti, metti un moschettone, al latte ci metti il pesce fritto, dai. E tutto lì, con le ancorette. Già va bene. No, io stavo andando alla spiaggia, ma sono andato una volta solo quest'anno e vabbè, ho preso quella lì, un paio di mormore, ma non grandi grandi, ma già mi sono divertito, là. Stavo un po' mangiando perché c'era onda lunga e stavo mangiando, ma intanto già ci ritorno, là. Quando vado in ferie già me ne faccio qualche capattina, anche da solo, non c'è problema, tanto tu non vivi mai vieni. Se non ti vanti di tu già, infatti io l'ho detto, Gianni deve essere impegnato, deve essere, perché non ti facevi né sentire né vedere, non vi vuoi mai vieni, che pizzina, è che non c'ho le canne per andare in spiaggia, te lo sto spiegando, c'ho due cannette piccole, una quella che mi hai dato tu e un'altra ne ho, piccoline, e cosa vuoi fare un bis? E perché io come ce l'ho una tariga, sai che ce l'abbiamo molto per le cane, sono 3 metri le mie, basta saper lanciare, lanci, io ci metto piombi piccoli da 50, se non c'è mare, li metto da 50 e piombi, e faccio dei bei lanci, lo stesso, in una finisco quasi tutta la lenza col lancio, nell'altra metà, ma chi se ne frega, ho visto che già prendi lo stesso e più prendere, non è che e tanto le volte entrano anche in riva e poi dove vado io c'è la quarta da quando entri, figurati tu. Sì, già lo so, però io ho la lenza fine, c'ho mi serve un mulinello perché quello che ho è andare su Rumi, quella che ho io andare bene mi andare a galleggiante boh. Perché per andare là ci vuole un mulinello e ci sia un po' di lenza e un po' grossetta pure. Vai dai cinesi, te lo compri, già sono buoni quei mulinelli. L'unica cosa che fanno è che un po' si sboccolano appena appena dopo che ce l'ha un po' di anni, dai, si muovono, ma non fa niente, fanno bene lo stesso. C'hanno 3 cuscinetti, fanno benissimo. Avanti Claudio. E beh, Gianni. C'è uno che ha detto pescatore di acqua dolce, anche nell'acqua dolce si può pescare. Ok, va bene. Marco c'è, stava mangiando sicuramente. Riprendi Marco, guarda c'è Valerio che è già partito da Capocaccia. Rilancialo, aspetta un attimo però. Ecco qua, che c'avevo la potenza oltre 10 watt, ho messo 10 watt. Riprendi Marco. Mia bella cosa, mi. Ciao Gigi, ciao, già ti abbiamo sentito, rilassati, vai Valerio. Ehi, ero al telefono, prima, adesso sto mangiando 4 ganasce. Eia, infatti sono stato quasi un'ora. Eia, ho sentito Gianni che è entrato, dopo tanto, mi sta entrando poco Gianni, molto molto male Gianni, riprendi. Cosa? Non ho capito Marco, buonasera. E io ho detto, sta entrando poco. Vabbè, ci avevo degli impegni e poi anche al lavoro mi hanno cambiato l'orario, sto facendo sino dalle 2 alle 9 di sera, quindi adesso già ritorno tutto alla normalità, dai, dai, dai. Mi sono liberato di tutto, Claudio. Claudio, vedo o non vedo? Claudio non risponde, avanti. Valerio. Io sono qua, sono andato bene. Io ti ascolto Valerio, avanti. Lo so. Sta parlando. Aspetta Valerio, ha parlato anche Eugenio, tutti ti ascoltano anche Valerio. Va bene Eugenio, ok, va bene, ci sentiamo dopo. Cos'hai detto Valerio? Eugenio entra dalla macchina, in macchina sicuramente. Adesso stava arrivando a casa. No, qua. 9.10, 9.15 da Capocaccia fermo, adesso sei sempre 8.9, non c'è problema. Lo sai che io ti accompagno sino a dentro il garage. Vai già. Aspetta che sono al cellulare un attimino. Vai Marco. Sto mangiando. Ma che cazzo entri? Ma mangia, che ti si mangiano i cucciucci. aia, non mi scende. Bene, bene. Volete il rutino? No, no, no. No, no, assolutamente no, dai. No, c'è Giulio Rascotto, c'è gente, fai da bravo. Io mi sto... Natalie, hai detto che le canne piccole, così è? Cioè da scoglio, no? Natalina è morta. Beh, dalla banchina, quella lì vanno bene, ma da lancio voglio almeno a 3 metri, 3 metri e mezzo, se no cosa lanci? Io ce l'ho sia corta, sarà un paio di metri, che usavo per tottanare, per la banchina. E poi ne ho una lunga, mi pare 3,50 m, una Olympus, già tutta pronta, sono tutte sui massalle, le avevo anche pulite 2 anni fa, poi sono sempre su, però a pescare io non ci vado, ma che non sia proprio così, tanto per divertirci, magari quest'inverno iniziano un pochino più avanti con Gianni. La banchina mi divertivo con lui, anche con Natalino, si può andare, ma si può andare, oggi la sera se c'è molto freddo, capito, fare qualcosa di diverso. E se c'è freddo ci portiamo una bottiglia di vodka? Ti pare arriva un russo a voi, arriva la lanza di un russo, no, non mi piacciono a me quelle cose, picci e schifo, bella via. No, non ci portavamo niente, portavamo qualche panino, qualche lattina di birra, così, acqua, capito? Ma era più ricicletta e si fumava, amico Gianni, io che... Però stavamo bene, se non c'è freddo, che c'è vento, capito? Molta umidità, si sta bene la notte, adesso siamo i primi di ottobre, così, già va bene. Aiaia. Questo è il periodo dell'orata, no? Andiamo a fare le uova. Ancora no, vero già. Anche mio fratello ci sono andati l'altro giorno. Anche lui l'ha presa, una da 800 grammi. Però mi ha detto che ancora non stanno entrando bene. Ottobre, novembre. Inizia a fare strage secondo dove vai. Da settembre cominciano a fare le uova. Settembre, settembre. E se c'è il passaggio, io una l'ho beccata, però non è sempre festa. Sì, mio fratello l'ha presa, 800 grammi, mi ha detto 800, 850, bellino. Sì, sì, vabbè, settembre, ma così è fatto, settembre è già andato, quindi già dai primi di ottobre iniziano a pascolare, capito? Iniziano a pascolare. E già si può andare con Ucama, ma un bel latte. Io tanto vado lì a galleggiare, così, a divertirmi. Appogliato i paraglioni. Poi aspettiamo quando entra il peschericcio, come si ferma il peschericcio, mi prendo il pesce che lasciano loro, vero già? E allora? Adriotami, poco è buono. Ma che una buca una giovata, veramente. Ho fatto il peschericcio vicino a noi, una giovicchi. Ho preso il pesce, se ne sono andato, ho pulito la barca, ho detto, ma ci sono tutte le reti. Avevo tutta questa cosa attaccata, sono andato sopra la barca, ho detto, abbiamo di fionda. Qui, qui va a fare fritti, mi dice, quanto sono buoni, una busta ne ho fatto. Capito? Prima si mangiava le gabbiane. Erano freschi, mi è appena arrivato, appena entrata dalla barca. Vabbè, e comunque già ci andiamo, già va. Prossimo mese vediamo un po', tanto anch'io dovrò fare un po' di ferie a ottobre, sicuramente, adesso il 30 si rifà questa settimana, se da domani mi pare sino al 30 in ferie il mio collega, io faccio un po' di sostituzioni anche nella sua zona, poi quando rientra lui mi farò una decina di giorni a ottobre, prima settimana, la prima 2 settimane, settimana e mezza, vediamo quanto me ne vanno. No, ma io dal molo non ci sto più andando perché non si può più entrare, se ti trovano ti mettono multe esorbitate da 1000 euro in su, in più questa è tutta l'attrezzatura. È già successo, quindi non ci sono più nessuno, stanno andando sedo per la Madonnina. Mi ha detto questo qui che ha fatto strage, ne ha preso, sia orate, che ha detto che ha preso un salago da un chilo e passa, un chilo e due. Orate, di tutto e di più, lì alla Madonnina, dove praticamente c'è l'uscita delle barche. E c'è l'uscita del porto, la Madonnina, dove c'era la girola prima. E noi non la siamo in Chivicia, ne andavamo prima, no? Dove c'è, dice, natura stretta delle barche, delle barchette. Ma andare in fondo, al porto, non sto parlando del porto opposto io, dove attracca la Tirrenia, no, mi interessa lì a me. Lì, non approfondare, dai, capito? Lì alla Madonnina, in Chivicia che non si può fare, lì, dalla parte anche galleggiante si può fare, lì c'è l'ingresso di pesce, lì entra il pesce. Kappa, no, lì. A Bocconi a Corsi ha detto che stava andando, e a Bocconi ha detto che ha preso un po' di roba, che dice che non lo mangia il Bocconi, e così hanno detto, ho preso una tanuta da 900 grammi al molo, e cosa che sono le tanute, sono pesci che stanno a largo, e dice, cazzo, ma tutti e due i bisigheggi, cosa non rimagna, e ci sono dei granchitti, mi sono dei granchitti, a vedi si rimagna. E vabbè, ma la tanuta, sì, è un pesce che sta fuori, e evidentemente già si è avvicinato a cercare da mangiare, capite? E quindi, vabbè, no, ma lì ci sono anche saraghi, ci sono orate, qualche spigolo per prendere, fagilloni, quelli grandi, lì era Madonnina, lì. Sono andato io con mio fratello un sacco di anni fa, già si pesca lì, e poi è buono perché c'è corrente lì, capito? Quindi l'acqua è sempre bella pulita. Ma te lo ricordi la tana delle ombrine che avevo scoperto io, che le prendevo a bizzeffa, in una sera le ho preso quattro, tutte da un chilo, chilo e mezzo. E già me lo ricordo. Una volta che siete scesi con Stefano, che me l'avete compatta voi, l'ultima che avevo preso. Avevo preso, cazzo, il giorno ero proprio stracannoso, avevo preso una sibbia, avevo preso una sugliola, avevo preso un mormorone grosso, cazzo, quelle tre ombrine, insomma, gli ho fatto un strage. Sì, già me lo ricordo. Sì, ma lì te l'ho detto, il pascolo è buono comunque, non è un pascolo brutto. Nella macchina ho piazzato la trantenna, Claudio, non ce l'ho più l'altra, quella la Turbo 2001. Sono andato a vittarla, cazzo, se ne scendeva, era spanato. Ho dovuto mettere la Sigma. Vabbè, la PDC 800. E a chi mare anda? Vabbè, l'ho messo nell'attacco stesso della Turbo 2001, perché c'ha la filettatura più fina e attaccato, capito? Ha preso. Invece l'altra era con la filettatura grossa, non prendeva più. No, ma già va bene anche la 2001, ma quella lì, la PDC, va bene. Allora, raga, dai, io mi stacco un attimo, che mi sistemo il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Vai Marco, fai girare per Valerio, vai dove è arrivato, se ti sente. Ehi, Claudio, dai, porta il cane, per fare i bisogni. Valerio, mi ascolti? Porto Conte. Io ti ascolto, Valerio, ti ascolto abbastanza bene. C'è una di che non vado a Porto Conte. Da, vi saluto anche io, magari prendo dalla macchina, devo accompagnare Marco a casa. E ci sentiamo dopo, dai. Ci sentiamo dopo, magari dalla BM. Ci sentiamo, saluti a tutti, mi ha fatto piacere sentirvi, risentirvi. Magari nelle prossime giornate ci sentiamo, dai, non c'è problema. Cava, ciao già, le prossime. Ero al telefono poco fa. Ehi, a Natalità ci sentiamo, questo qui era un po' occupato. È morta la mamma di Marco, l'hai saputo? E di chi Marco? Non voli? E allora? No, non l'ho saputo, grazie. E dato che lo potevo sapere. Sì, magari dal giornale. Ieri mattina c'erano i funerali. E l'ho saputo anche io. Perché l'ho chiamato e mi ha detto sono al cimitero. E te cosa ci fai? E mamma è morta. Ah, e perché non me l'ha detto? E già era a testa, lo sai com'è. Ha detto non lo sapevo anche se dirtelo, se non dirtelo, perché tu c'hai le tue cose, eccetera, eccetera, i tuoi problemi. E meglio che... E detto vabbè, ma mi faceva piacere venire. Vabbè, comunque lo sai, adesso telefono e fare le condoglianze già, se le vuoi fare. Non ce l'ho il numero. Come non ce l'ha? Ti ha chiamato il giorno davanti a me. Ah, se ti ha chiamato lui. Non ce l'ho memorizzato, se no l'avrei chiamato. Se non è che me lo faccio via WhatsApp e io me lo scrivo. Dai, facciamo così. Vi saluto. Ok, altrettanto, ciao. Buon tutto. Ciao Gianni, dai. Tanto dovremmo essere qua, no? Salvo imprevisti. Io ho quasi finito di mangiare, mi tocca il dolce. Che palle. Peccato, per oggi era bella giornata, si poteva fare un giro, no? La vecchia non ha voluto. E che vuoi va? Che ci vuoi va? Adesso pure il giorno 2 quando ritiro mi rubiglio un mulinello, come cavolo fai a pescare a fondo con quelle cannette piccole? Eppure Natali, lo sai che andavo a pescare anche la spiaggia, io avevo delle cannette da 3 metri circa, no? Una da 3, una da 2,70, di quelle sottili, no? Oppure avevo quella da 4 metri e mezzo, per la spiaggia, più grossa, però più grossa. Beh, ti dirò che dava più frusta, dava la frustata maggiore quelle da 3 metri. Sembrava tirarsi più lontano, invece con quella lì, sai, grossa, lunga, pesante un po', anche il mulinello era pesante, la diciamo, ma non... Invece quelle a 3 metri, mi sottili, cazzo un'infrustata, scià! E vedevi il piombo, le ho sempre preferite quelle sottili, di lunghezza media, dai. Oh, 4 e mezzo, troppo pesante, poco flessibile anche, se vogliamo. A meno che non ci mette un piombo alla 100. E una deve essere 2,70 e una 3 metri deve essere. Però in una c'è il mulinello che è scadente, la lenza fine, non va bene, no? Mi devo comprare anche il mulinello e la lenza, mi devo comprare per quella a 3 metri. L'altro già va bene. Così me lo imbobino e la uso a fondo. Perché Gianni non ci fa galleggiante, capito? Deia. Sì, guarda, ne avevo una celestina da 2,70 e poi una color marrò da 3 metri. Erano le mie preferite, a mulinello non troppo grande. Ma pensavo sia la scoglio che la spiaggia. Cosa ti volevo chiedere? Io una volta ti avevo chiesto una cosa, però non mi ricordo cosa mi avevi risposto. Ah, ecco, ti ricordi una volta quei famosi mulinelli Abu Cardinal e Shakespeare di marca? Ma si trovano ancora o sono scomparsi? Ah, penso si trovino ancora. Io ne avevo uno Shimano, la canna Shimano, cazzo, me l'aveva... Guarda... Ne avevo 4 di canna, ne avevo 2 grandi da spiaggia, 3 metri e mezzo mi sembra che erano, e 2 di quelle piccole, ma belle erano, cazzo, i mulinelli erano di lusso, me le hanno rubate da campagna, Marco, ti sto dicendo, cazzo, e sì, ne sono sparite a mio nipote. Ho sentito sì che le avete detto Gianni, Shimano pure, belli. Invece Osham vendeva o vende ancora gli Okuma. Funzionano bene, niente né infamia né lode, capito? L'importante è che non finisca la sabbia, sennò addio me. Capito? Chissà che fine hanno fatto quelle canne, ce le ho buttate qua. Bisogna controllare in che condizioni sono gli anelli, se sono ruginiti, se no bisogna passargli un po' di antiossidante, di quell'olio e pulirle bene, ma purtroppo quando uno si rompe le palle con un pesche brutto, perché io andavo, mi piaceva anche andare da solo, anzi soprattutto dire da solo, no? E quando non sei solo e non peschi è brutta, ma è tedioso, capito? Lo so. Cata, quando andavo io con Gianni ci divertivamo, ci fai due chiacchiere, perché non mettevamo, tanto per dire, andavamo al porto, no? E le mettevamo le canne coricate, mettevamo il cucchiaino, tanto se a bocca saltava il cucchiaino e te ne accorgevi subito. Sì, qualcosa l'avevo fatta anch'io, o anche per, come si chiama, quel sughero col filo intorno, ma come nel corpo. Sulla lenza mettevi un qualcosa che facesse rumore, no, per attirarla. Bei tempi. Volentino si chiama o com'è? No, il Volentino è dalla barca. E come si chiama il sughero col filo a volto intorno? Mi viene Natalino? Non lo so, io non l'ho mai fatto, io buoni rugucciarino, burrugiani. Cazzo, candusira, perché tu lasci la frizione aperta? Oltre a fare il rumore la frizione, salta il cucchiaino, quindi si va in un casino della Madonna. Eia. Sì, ma non mi ricordo, aspetta che belli, li vedevo a Olbia, quando mamma lavorava a Olbia, c'era un negozio grande di pesca, la bava me ne scendeva, Natalì, mamma mia quanta roba aveva. Lo stesso ho visto roba Shimano, però io mi è rimasto impresso dagli anni 80 questo nome, Abu Cardinal, ma era roba costosa, mi, un bel costosa. Lo so. Secondo che i mulini lì sono, costano. Adesso provo da Decathlon a vedere se ne trovo qualcuno buono. A poco prezzo sempre. Perché il cappa più di quel tanto non posso spendere. Lo so. Poi avevo notato una cosa, con la canna grande, no? Mulinello grande e lenza anche un po' più grande. Mentre nelle canne da 3 metri mettevo mulinelli un po' più piccoli e lenza bella sottile, e vedete come volava il piombo invece con l'altra. Ho notato che più grossa era la lenza, meno tiravi lontano. Ma quello è vero. Però se la metti troppo sottile perdi il pesce, secondo cosa peschi, tipo quella da 1,2 kg che ha preso Gianni, se non hai una lenza un po' grossa e resistente, non i bigli, li belli e buco, pesi tutto, burrugalamento belli. Veglia, infatti io mi ricordo, sulla canna da 3 metri io anziché mettere una lenza normale, mettevo una lenza non rinforzata, ultra rinforzata, era mi pare della Asso, quella lenza che avevo preso da Sportland, capito? Cioè anziché mettere uno 0,30 normale, mettevo uno 0,25 super rinforzato però, che teneva come quasi uno 0,35-0,40 mi. Era una bella lenza, vi ricordo, il colore è leggermente verdolino, trasparente. Infatti se la compro la ricomprerò uguale. Lenza più sottile ma resistente. Non oltre 0,30 comunque. Infatti con quei mulinelli piccoli non puoi, se no non lanci nulla. E poi mulinelli, mamma mia, non mi è rimasto granché, erano tutte cose cinesate, non so nemmeno se ne ho ancora mulinelli. Quello grande forse sì, ma era tutto peso e niente arrosto, mi, capito Natalì? E poi ormai le canne che compravo al negozio di pesca sono uguali a quelle cinesi, lo sai, identiche, quelle in fibra di vetro, no? Vabbè, il carbonio è un'altra gobba. Però quelle in fibra di vetro alla fine erano uguali a quelle cinesi. So che al negozio di pesca le pagavi molto di più, capito? Certo. Peschiamo con le bombe, eh? La lasci a fondo con la pastura intorno, dopo che con l'innesco elettrico mio. Vedi che ne salgono i pesci a galla. Buon valore. Ma lo sai, avevo visto un filmato, no? Di quei ragazzi vietnamiti, poveri, no? Ragazzini erano. Andavano in questo laghetto, no? Sai, tutto verde intorno, tipo quasi foresta tropicale, c'era questo bel laghetto. E loro iniziavano a spogliarsi, no? A mettersi, cioè si lasciavano i pantaloncini, e avevano le bombe, le granate da guerra. Buttavano la granata in fondo, sai, pochi secondi, vedi questa colonna d'acqua. Poi loro si tuffavano e con un rettino, una cosa del genere, e portavano tutti i pesci via, a seconda delle a decine. Ogni sbadiglio, mi la biocco. Mi si chiudono gli occhi. Nataloide. Aspetta, sto scrivendo un messaggio a Gianni che mi ha mandato il numero di quell'amico che gli ha mostrato la mamma e devo fare le cose chiare. Eia, fai che io mi piglio un budino. È rimasto qua? Ehi Marco, sono qua però dai, devo dare una mano in cucina, capito?